fronte a tutti i maschi, questa persona, non pensare che sia magari un gay come tu ne hai visto altri, per dire, non pensare a quel tipo di persona, tu dico, il personaggio, puoi dire, ah, anch'io me lo immaginavo male come lo stai facendo tu adesso, tu dico, il personaggio, poi ti rendrai conto, dici, aveva ragione Luca, aveva ragione Gianni, tu dico, il personaggio, ha pagato. E poi alla fin fine, se proprio non lo sembra neanche, non lo vedo già. Colui parlava male, sembrava una persona quasi che non te ne sa nessuno, no? Poi quando ti vedeva cominciava a fregarsi le mani, no? E a girarle. E insomma, la stessa cosa ha fatto fumare il suo, perché come ha fatto così? Ma già, di tutti i siti li avete mai fatto con questa persona, era sempre talmente suonato che non si riusciva a fare un dialogo. Ascolta, il padre mi ha una vista. C'è la marmalle, da cosa c'è la marmalle? Sì, no, ma avete detto, ho capito che non lo conosco mai, non so se lo vedo di riconoscerlo, però conosco la persona, il cognome. La... Ha avuto anche tu nel telefono e ha fatto il gioco della calza un cliente. Che dura, sì. Ma sai cosa dice quella cassa? Si mette le canzoni nel canse. Ah, tu ti prima le scanse, tu te nel canse, tu te ne la magnetta. E poi. Ho capito, non mi è mai capitato di essere presente e non me ne ho fatti nulla tra parentesi, però ho capito. E quello che ha detto la cosa faceva lui, guarda che ti immagina che un cliente adesso per non piano mi fa sentire il freno, come si è molto pronto. Mi si è avvato di tre cassette, e ce n'è ancora un tendine. E tu facevi? C'erano anche ragazze che ascoltavano. A me va di burubena, mi fa un bel fena veramente, non è che se, ma io sto per farla arrabbiare, non so che ci incavo l'acqua, perché praticamente entravo io e facevo per esempio la voce bassa, no? E dicevo cose magari che lui guardava, ma non ci incavo l'acqua, e poi diceva, Daniel Zuffi, poi iniziava a dire numero di telefono, numero di chiesa, numero civico, la via, guarda, la cosa è micidiale. Mi sa che vuole 500 euro, dove via? E lui diceva, falla quella! Guarda da Giovanni 500, se lo faceva Piero, che si curvista, mi era lì che lo faceva, dopo Giovanni l'ha sentito, magari l'ha fatto anche lui, ma ti ho inventato, qui lui sono tutto più bravo, qui lui che lo faceva cazzo di Giovanni e Sole, tutto ha detto che lui ti ha detto, non mi piacevano la persona grande, che c'erano i ragazzini, allora non sai quanti anni avevo quando parlavo con Falcone, mi piacevano 18 anni. C'è qualcuno sotto avanti, una bianca era. Paoletto, mi ascolti? Ha senso Paolo? Insomma, tutta una bianca, mi è sembrato, Ho sentito quando hai mollato il studio. Ma te ne avevi già detto 15 anni? 17, 18. I viaggiani giovinotti. Era qualcuno è andato pure a... Era su, si è incontrati, e le cose che stanno in fatto. Come avevi ascoltato della fotografia di quando modulavo, che avevo quello che sta lì? Gappa. Guarda, ti volevo dire, comunque era un bel allucinante. Ah, poi bisogna farlo conoscere a Roberto, bisogna portarlo, andiamo a prenderlo, portiamo in officina. Ma su quel gioco che l'aveva attaccato era Pomponio, tanti anni fa, davvero. E poi da Pomponio sono passati anche gli altri. Ma infatti vanno le agenti di vecchiera che avevano attaccato questa roba qua. E poi così cazzava, mamma mia, ma io ho fatto un brodino di marmo. Lo portiamo a casa di Maria Luisa, invita a caffè. Allora, il Falcone che le ha dato il numerativo? Questo non lo so, lo sai, perché non mi ricordo, sono verità, non mi ricordo che l'abbia dato. Però io ricordo solo una cosa, che uno aspettava, dopo l'avevo fatto un negozio e lui andava aspettando quando faceva la apertura, la chiusura. Thank you. anche se la macchina non l'ho mai buttato, la macchina l'ho guidata a furia, non ci bisogna andare a rubarla la macchina. Vabbè. Biblia c'è di nuova, quindi come fanno tutti qui, se dico la nuova, normale, sempre per avere una macchina. Io la prima macchina che ho avuto era stata la 500 Abarth 595, e se non camminavo la strada, faceva 100 minuti orari, poi io sono andato in un'officina che c'era lì al confronto, sulla di un'inversione, vedo questa fotografia, vedo la strada che c'era la mia macchina, una macchina da corsa era. Praticamente c'era il tuo a quadretti, bianchi e neri, e a scacchi, no, a scacchi. Poi il tuo c'era di quelli lunghi, non era di quelli morbidi. E le strisce che ti avevano fatto, sia quadretti che le strisce, le avevano messo la capota nera e era tutta bianca, rotte larghe, abbassata dietro, una bella. Sai che fa? Certo, un gigante dentro con la macchina. Facciamo bello, non sono stato sempre gigante, tu non mi hai conosciuto da giovane, tu non lo puoi dire questo. Alto sì, però, e non grosso. Fatto sta che con la macchina di gamma la bomba mi associava, non ho realizzato facendo. Certo, molto le Abarth, io ne ho visto, non avevo fatto qualcosa con le macchine all'epoca, su a quadrato, a 500 Abarth, cioè perché c'era qua il... come si chiama, la coppa sotto verso Abarth, ma ogni altro qui si chiama anche motore di Alfa, ma e camminava pure come macchina, cavolo, cioè ma praticamente appena appena il cofano aperto dietro, forse per prendere aria, blu. Sì, chiamami la cosa, perché domani è una cosa mezza d'acqua, quindi quando faccio una raffreddamento d'acqua li mettevano un raffreddamento tra il cofano dietro e il coso, me lo attaccavano lì, col cofano aperto li mettevano un raffreddamento lì, però la mia ci aveva una coppa a parte, però il raffreddamento c'era l'aria, sì, quando mi trovavo questo passo con la macchina, c'era lì nella salita che c'è dopo, come si chiama? Ho visto la discoteca di Marino, sai dove sono stata lì. Ho visto la questa Alfa Romeo a 120, che sono una bella di voce, ma ecco, in salita. Cammina, ce n'è una, non si sapeva ancora qua. L'ultima cosa che ci sta che c'è la diciamo che è in guardia. Apribile. Io la verità, guarda, ho guidato 126, ma non di macchina ho guidato, 127, la 500 non l'ho mai guidata, mai, non ho avuto mai l'occasione di provarla, mai poi mai. Invece la 500 era una macchina che ti insegnava a fare la doppia debraiata, perché io ogni scalata che facevo non facevo una doppia debraiata, capito? Non ho avuto l'occasione di... Poi mi ha detto che la pedale, sì, mi sono seduto, però mai guidata. La pedale è molto vicina, è molto, mamma mia. Se non fa la doppia debraiata grassa, capito? Quando tu scavi o metti di marcia. Specialmente quando scavi fa un bel forte, sembra di essere una macchina a corsa. A livello delle accelerate sono gratta. Ha già accelerato ed è funzionato, ma ha fatto velocemente, perché sennò la macchina viene andata molto giù. Quando tu sta facendo una curva, no, fa rallentare, rallenti, quando devo fare la doppia debraia, fa scali, entri in curva. Non ho mai guidato la vetta. La macchina di guidato, spiega e giaggia, bomba. Allora, certo, ho guidato per il 1008, forse il 2000 era la 100, 155 per sbaglio, no, la passata 5, ma mistica, ha fatto il posteriore, mamma mia, ho guidato un bel macchio, quella parte che facevo, anche se l'ho fatto per poco, ma allora, la lavaggista facevano le consegne a domicilio. Non camminavo per corsa GSI, una schifa, insomma, via la WD-WD, via, vai, andiamo, spingi da solo. Comunque, a parte sì, hanno molto sofferto. Pagato. Io mi ricordo in particolare il GT 1003 Junior. Di che cosa? Però fa Romeo. Ma tu il duetto, un viaggio a un bel. Come lo sport, anche se la tutta quanta rivista non era una macchina molto affidabile. Dovevi metterci un sacchetto di cemento nell'anteriore perché era per la potenza che erogava era un bel leggerina. E io fratello il bifetto a 120 volava, non ha fatto andare. Invece metterci un sacco di cemento e noi ci avevamo messo una colata di cemento. Cemento proprio, calci tutto. In modo che appesantiva bene. Tutto lì. Mi perché con l'aceto di tizio aveva avuto un incidente e era rimasto sotto la macchina, quindi mi ha lavorato la sua. Ecco, pagata. No, poi erano uscite, non so se voi ve le ricordate, quando era uscita la 500 Giannini, poi avevano fatto la 500 in stile antico con i parapanghi larghi e avevano fatto anche l'850 con quello stile lì. E l'ho avuta anch'io a 500. E aveva all'interno Giannini il motore a parte sulla mia. C'erano tutti i contattilometri, i contagivi, tutti rotondi, tutti diversi dalla 500 normale. Era una bellina dentro. La 500 Amazon non aveva nulla a che vedere con la 500 normale, era tutta un'altra cosa. Cosa stavo dicendo? Sì, ma la 500, quella che sto dicendo io, non so se tu te la ricordi, le vecchie Alfa, quelle che avevano i parapanghi enormi, e le vecchie Fiat anche là, con le parapanghi enormi, avevano fatto un modello sia di 500 che di 850, stile quello lì, stile antico. Ma i parapanghi cromati? No, tutto in tinta col colore della macchina, e qualcuna gliel'hanno fatta su richiesta con i parapanghi cromati sopra le ruote. Io me lo ricordo, allargati rimanevano, si curavano che larghe, eccetera, eccetera, abbassate dietro. Erano tempi bellini quelli lì, poi avevano fatto, dopodiché avevano fatto anche il Dino Fiat, te lo ricordi il vecchio Dino Fiat? E ce ne sono tante macchine belle, Attenzione, ti Daniele. Più o meno quanti anni è, Daniele? Stiamo parlando di macchine dell'anteguerra. Io ho 33 anni, però quella macchina che mi piace, rimarrà sempre la vecchia 500. Sì, come ce l'avevo io, bella, tutta larga, tutta razza, tutta 720 salita la mia. Come diceva mio padre, è verde, però il modello quella col baffo, con la scritta Fiat e i baffi. Ho capito, c'è un minigolo di due anni. La mia, una volta è stata fatta la Alfa Romeo, per tutti mi ha guardato, è rimasta bocca a bici. A 120 ho stato fatto la strisce della salita in manina. Vabbè, quello lì io ho visto la 500 Giannini preparata, che era una schizza, era, è vero, bellissima, e all'epoca quando è uscita la 500 Giannini costava 500.000 lire. Io l'ho pagata così a seconda, ma non so che cosa la 500.000 lire, era una bella macchina. Comunque ti sto dicendo, io ho fatto vendendomi la moto perché mi avevano detto che me la volevano rubare e comprandomi la macchina. Dopo una settimana quello che avevo detto che hanno rubato la moto in ogni gas. E ho preso quella macchina lì perché conoscevo il tipo. Però non sapevo che quella macchina lì faceva le corse la mia macchina. Un giorno sono andato all'elettrato, non so se ti ricordi quello ricordo che c'era il viale costruttore, adesso ci sarà più sotto. Se ne prendete dove c'è un coso di moto, un po' più avanti c'è un V8, si scende giù. Sono andato a fare un mi ricordi la fotografia della macchinetta cosa faceva? Ecco, io facevo le cose, capito? Poi si vede la stazione dell'acqua, la bene bene. E ho detto, questa macchina qui la portava pure per fare le cose, per forza l'ho riconosciuta. Kappa, già ho capito cosa stai dicendo. Adesso c'è un marmista, un fabbro lì dentro e c'è anche un carrozziere. No, questo qui era un elettrotto per fare, elettrotto forse, la buca. Ma comunque, quella era una bella macchina. Adesso guarda, questo quando l'ho fatta a mano, quando praticamente bisogna fare la guarnizione della testa, quindi bisogna fare la testa, però la testa non si poteva scalare perché era in alluminio, mi pare, o in acciaio, non mi ricordo. Detto che non faceva scalarla, che bisognava metterla nuova, e usavo un belina. Allora glielo ho fatto mettere normale, non mi ha più reso con il motore e alla fine l'ho data. No, gappa gappa, lui chi ce l'ha se la tiene ben fretta. Io conosco un pompiere che ce l'ha la 500 Abarth, tu lo vedi ogni tanto, è questo, è quello, c'è sempre sopra, sempre luce da luce, da nuova nuova. Bellissima, niente. Ma no, io le 500 le ho conosciute tutte, dalla R, la L, la C, tutte quante. Io R, L, C, la C no, non me la ricordo. Gappa, gappa. Prima la... C'è presente il topolino? Sì, è la topolina, sì. C'aveva un muso come la topolina, dietro c'aveva tutte quante le strisce in legno, guarda che avevano fatto la Minimino con quel genere lì, che c'aveva le strisce attaccate in legno dietro, che era fatta tipo de Chauvego. Ho capito, sì sì che l'ho conosciuta, con lo sportello di dietro ce l'aveva attaccata. Questa qui la 500 C era fatta tutta quanta così, tutta con le secchie in legno, le frecce che uscivano dai montanti degli sportelli, quando mettevi le frecce si... c'era la leva che come dire aveva il corpo faceva uscire la cosa della freccia e si accendeva dalla montata della portiera. Vabbè, comunque, molte le ho conosciute io, la giardinetta, la topolina. Gappa, gappa. Giardinette ce n'erano tre o quattro, mi sembra, in quel periodo. Non è che ce ne fosse la morte, quel motore a sciogliola era appiattito bene dentro. Era diverso dal motore a 500 la giardinetta. Non mi interessava allora perché ero ragazzino, quindi non pensavo al motore. Però tutte le macchine le ricordo. Ah, gappa gappa. E anche io mi ricordo tutto, motori e carrozzerie. Perché io non è tanto l'estetica, guardavo anche il cuore della macchina, perché ero molto incuriosito. Io invece ho 50 km, vediamo quanto corre. Cioè per quello io nel 127 ci ho messo il moto, il contachilometri del 124 sport, almeno 220, cazzo tutti gli altri che andavano a Baidava nel 127, disegnare, sì, questo è un morto, cazzo guarda quanto corre, 220. Sì, perché quando erano bambini si guardava il contachilometri, si guardava avanti Luca. Ti dico Luca. Ehi, adesso va l'ortogramma che ci sta a uno. Cavolo, per vicino alla macchina ci vuole fare. Per carità, sotto in faccia. Tutti i colori. Poi alla fine, prova proprio che vinci tu, ti fa le domande. Se ti sbagli, devi iniziare a spaccare per la bletta, non arriva l'ortogramma. Guardo la televisione, te l'ho detto Luca cosa guardi la televisione, guardo telegiornali e documentari, le robe serie, prima gli ho seguito. E in più la seguo tutti i programmi che non me ne perdevo una puntata, ma adesso non me ne fatti di nulla. Niente, proprio nulla. Sono metà passati con certe cose, non so. Vai, poi a fare il tempo, io io andavo, ero sicuro di trovarle. Anche un po' la volta, però le trovavo già. Cioè, una volta sono andato, la prima volta. No, la seconda volta mi guarda, facciamo il conto. C'era un altro tipo di sacchi di zaino che mo ti si buca, no? A tracolla. Ragazzi, una volta a camminare, era pieno. Quanto mi sono dovuto andare, c'era un bel. C'era un cerchio qua, un bianato. Non sono dovuto andare già, perché c'era un bel. Tutta bella, tutta piccata era. Tutta piccata. Poi lo marconi passeggiando in terra. E lui non l'ha già avuto. No, invece io li ho trovati tutte in terra, nel camminano in terra. Tutto il muro del muretto, di che muri si faccia effetto, di quelle pietre vulcaniche. Ehi, lo marconi anche lì di giù, dipende. Dipende. Ci va un rompo e un gruccoli. Che sorte di controllare, una volta lo stesso. Ho fatto questo pezzettino, no? C'è un muretto, siccome è pieno di ruffi, no? E camminavo di nulla, ma proprio neanche l'ombra. Poi scendendo, salivo e scendevo, no? Adesso non mi frega. Quando mi ha detto, ma tu mi hai con cui, cioè, ti pungevi il cavolo. Però piano piano con lo stivale, con lo spossato, ci trovavo e riprendevo. Sono un casino, ci voglio un paio di guanti, capo, non sono bene male. Sì, non ce ne ho. Però... cosa c'è loro? Allora... Sì, una via nella mattoriana. Ce n'è uno vicino a casa, lui va a quello. Ma non è appunto, ci circoli il letto già. C'ha le mani ormai grosse, ma c'è le grosse, ma tu vado tutte i due. Fa un bel. Una volta l'ho fatto in due, la moglie, quasi 200 rosene. Sì, lo so, e allora fa le sei cose, dove la lui l'ho fatto quella busta io, sono andato lì a prenderlo. Dove? Ma qua, dove? Ma molto lontano? No, adesso non c'è più il posto, perché stiamo scavando per fare la strada più larga. Allora, praticamente io entravo, visto il bivio di Platano, il primo bivio, quello che va sotto, con un motore di Platano. Quello lì a fianco c'è quella collinetta dove ci sono i bunker tedeschi, non vale il genere, quello della guerra. Boh, non ci ho fatto mai caso. Io mi conto lì, c'è una sola la bizzetta un tempo, ma un bel parole. Siamo andati. Una volta siamo andati alla valle dei Brosci, lì a Scena di Bucci, praticamente con il fratello di mio cugino, è stata una cugina e fratello. E lì dovevi cercare Lumacche, comunque sotto Lumacconi era un bel, sono detto per la sorpresa, le bisce, i zuppi. Ma io ti metto con un bel, sono stregato il suo rumbo per carità, e lui va sempre lì, va sempre lì, e trova un bel. Una volta ho fatto un sacco, cercando un uomo di treno, c'era una bici che è stata figliata, che è stata figliata, che si è alzata in piedi, dritta, e di lui la bacia della brida. No, fidati, poi ha trovato una piccola di bici, se l'ha messa in tasca del giubbotto che usa per andare a caccia, no? Anche fuori il gapo, è fuori il gapo. E poi siamo andati a casa del cognato, di questo qua, di Fabrizio. A te io là, sento a casa che adesso bevo il caffè, ho fatto il caffè, ci subiglia, ho preso il spago, la legata, sempre si è già attaccata a lampadario. Siccome questo qua è un po' balbutta, no? No, un po' che ne è impressa. Io ho trovato anche le tartarugine piccoline, però le ho lasciate. No, tu sei pieno, lì, ma io ho trovato una gigante là già, grandetta era, che ne fai, se c'è pane di vista, lui. E poi, lì, la sera a me, la vita è che ce ne fa Lumacche, la scuola dove c'è, tipo bisce, sono tutti, mamma mia. Tu ti sei rimasto da un po'. No, di lì se non mai avuto un lancio. Mai. E anche se il cane, ma è un appaia con centrice di macchina. Che appaia? No, devo dire mai la verità. Fatta lui, sì. Tocchi, serpenti, ti figuri. Vabbè, di quella schifosa. Poi di quelle. Di quelle lisce. Cosa vuoi anche? Aspetta che te l'hanno. I figuri sono quelli lisci. Quelli che hanno le zampe più piccole e sembrano lisce. Più o meno, sì. Oh, c'è gente che non è per niente, anche grandi mi le prende in mano. Vai a carità. Anche io. Ma no, non devo andare di vendia. L'altro giorno quando stavo lavorando ancora al supermercato, mi chiamano Gianni, mi chiedono se aiuto, cosa è successo? Tu c'è una cavalletta collegata sullo scaffale, ma enorme. Oggi il biliardo è un po' piccata nelle zampe con le gattaglie, non perché c'è le zampe che tagliano dietro, segreto. E poi l'ho fatto fuori, l'ho fatto volare, tutto lì. Ah, ma le cavallette, si ce la fai piano, è cessato un casino, ti biliardo un po' buono. Ma la cavalletta è pure io, le prendo, è smatta a testa, non è mossura. Ah, io non ne ho ammazzato male, ma sono così crudele. Ma mi piace ammazzare gli animali, ho fatto così io di libero. Una volta che sentivamo cip nella stufa che lo viene a casa di mamma, adesso stesso si era vado un pigione si deve essere dalla cama fumaria, si chiede di giù a prendere un rondone, prendo, tolgo, apro tutta quanta la tubazione, tolgo tutti i tubi e sono riuscito a liberarlo. No, come l'ho liberato è scappato, c'era la roba, la biancheria, mamma l'aveva messa tutta lavata, lenzuola, tutto qua, per una sedia per stenderla. E l'ho preso dove, per stirarla. Ha pensato perché va sopra questa biancheria, l'ha fatta tutta la biancheria nera, il muro, si è andato tutto il muro, tutto quanto nero, mi ha casino, mamma, in cazzo da niente. Beh, è un'intubazione. Fanno rossi. Vabbè. Ci vuoi fare già, purtroppo. No, vabbè, c'è roba di così uccidi, vabbè, le ammazzo, no, assolutamente. Però tipo questi insetti, li ammazzo tutti. Tipo la libero c'è la fretta, no? Sono rientrato. Si chiama. Sì, la libero. E c'è quella della matrice religiosa, che sì. E poi c'è l'elicottero, come si chiama l'elicottero, diciamo? Frenicottero. Avanti lui. Volevo dire che fai un cazzo l'elicottero. E a parte roba. Come se sono andati in Italia 1 che c'è la televisione, se vi fate delle risate. E ce l'ho io in camera roba. E già io non ce l'ho. Che c'è di dietro. Hai visto Mammucari, lo sai guardare? Quelli stessa, hai visto la tipa un po' di colore? No, che li stiamo tirando i fili adesso, cazzo ogni durore, mamma mia. Io lo so, ma ti stavo dicendo, cazzo, sì. La Luca. Comunque, domani piove. Vediamo già. Domani piove, perché deve piovere. Se fa molto come andare a beccare, non mi ha fatto niente. Ancora domani sono mercoledì, oggi non diceva, cioè 4 giorni ancora domani già fuori, si rientra. Sì, cosa fa male, anche domani c'è festa. Ah, è vero, certo. Sì, tu mi ho beccato tutta la festa, il figlio. Papà, c'è qui che te l'ho preso la sigaretta. Ai, no, macchina, per comprare l'automatico, ma non la gioco la revisione, dove andrò? Sono un po' scarso la prevista, abbiamo fatto, abbiamo girellato, va. Gappa gappa. Comunque, Mario, l'unico che sentivo di tu e di a guidare. Ma io ti sentivo anche la prima, quando eri là, poi è entrato Franco, non so se tu l'hai sentita, Franco, però io ti sentivo, stavo già attaccando il computer, però ti sentivo. No, negativo, Franco no, non l'ho sentito. Io ho detto, infatti, è entrato Luca e ha detto, ma cosa che dottor Luca se la cosa, non lo intendi? Però io mi sentivo quando eravate, se la dove mangia che stavate partendo. Cappa, cappa. No, io, cioè, sono soddisfatto io. Perché sono arrivato dalla macchina addirittura. Il problema è che anche tanto perché ti sentivo bene, però non fortissimo, ma bene. Gappa gappa, con queste poche vate, con questo microfono qui che fa mezzo schifo, non si può pretendere chissà che cosa, Mezzo schifo, aspetta, si sta mettendo le mie orecchie col microfono. Anche se non ti vogliono sentire, ti sento lo stesso, come molto di male. Gappa gappa, ma io ti sentivo da quando stavi parlando, poi ti sei fermato che avevi perso a Marco. Ma è gappa, sì. Quello lì è dopo che siamo andati a prendere le lumache. Cioè praticamente si è messa a piovere. Non ci vuole una barra perché è ancora perché dice, beh, sta piovendo, io faccio onda, io proviamo, con la rovina di Goku all'interno, proprio. Però questo c'è la presenza dove c'è una zona che si chiama, lasciamo pensare, Sastri, che praticamente è lo stesso nome della comunità che c'è qua, comunità Sastri. È praticamente una costruzione romana. Che sembra una chiesa rotonda, rotondeggiante, però non è una chiesa ma una costruzione romana. Allora la vatta, chiesa o anche rimole? No, anche rimole siamo andati, poi siamo scesi verso il giù, no? E me che già non sono vecchie rimole, me. Che di dritto vai a chiesa, di dritto a sinistra e stare su anche rimole. Noi siamo saliti su, dove ci sono le panche, ce le prendi? Siamo gli uni che è mora la gioca, ma è ancora il mora. Oh, Luca, c'era, sai cosa che c'era la raccogliendo le lumache, sono le 20. Che bocchiere, ragazzi, ho cercato il numero di Franco, c'è la vecchietta, quello è lumaccaio. Già, va bene, e poi c'era questa ambrigente che la raccogliendo, per quello che noi siamo andati a gioco, quello di chi si manda le domandate. Ma guarda che c'è molta gente che va alla macchina ma non è sempre più lunga, comunque adesso non è che sia tanto grassa, Gappa gappa. Separate in due. Adesso le prime piogge si prende le lumache, Mario. Negativo. La gente va e se le raccoglie, però le lumache adesso sono magre, perché il mese scorso hanno deposto le uova. Capito? Quando si vede al cargo vanno in amore e poi le pongono le uova e adesso sono magre le lumache. Le lumache iniziano ad essere buone dal mese entrante, dopo le piogge del mese entrante, ma non adesso. Adesso si devono ingrassare. Vedi già, sono più di 30 ora. Non c'è problema, se non vuoi venire non c'è problema, lo so. Sono le macchine viaggio. fatti i miei soldi. Ricordo il telefonino. Ma sono 6 e mezza. Vediamo un po'. Tutto questo cammino, tutti quanti in fila, no? sono un figlio indiano, tutto al verso, vedo tutto il campo, da una parte all'altra del campo, e dopo abbiamo detto sì, fare male militari. Stanno camminando e raccogliendo, camminando e raccogliendo, camminando e raccogliendo, la pedina di mano, molto vicino. Campo, già lo so che quello lì è Porto delle Romacche. Sarò a me a Ottava per raccogliere le lumachine. Hai visto il curvone di Ottava, presso della Platamona? Quel campo lì sulla sinistra era tutto lumache. Lo so, mi pare che dove andavo a prendere lumaconi, lumache, sulla strada di Alghero, dove è anche un posto di fuori. Una volta, lì al curvone della morte, lì sopra. Cina, te la stavo dicendo che io c'eravamo quello bambino di 7 anni con lui, che provocava, e lui le lumache non le mangiava perché Milano è dimostrato. Lui si è abituato a mangiarle e gli facevano più di nuovo. Gaffa gaffa, già lo so già, io tutti quanti quei punti li conosco, e a Posidonia molto vicino non c'è neanche in Gallo che. E io lo so dove. Ah, lo sai. Ah, chi chiede pure il lupo di Giacca Minutani? Oh. Mi sono andato a fare una consegna a un mobile da poco, dico. Ecco, una casa allucinante, ci aveva il bestiame e poi questa villa enorme. Tomba di vinci. C'è un posto di Monzette che non sai dove metterle. Ma in città? Sassari, se tu c'hai conoscenza, io conosco il padrone della situazione. L'ippodromo ce l'hai presente? Certo, quindi sì. Non ho capito, aspetta. Via, che via è? Zona Columbia, Bottinga, di una cosa della migliaia, diciamo. Io sto dicendo l'ippodromo, dentro l'ippodromo, sono migliaia, non sa neanche punirli, io ho un amico, il padrone è un amico, il padrone diciamo il direttore, me l'ha confermato lui, io non ci sono mai andato, però c'è un amico che abitava di fronte, andavano con le ceste piene, ne pigliavano migliaia, non decine, migliaia ce n'era, a fine non so neanche punirli, è pieno, ce ne sono perché deve essere lo sterco del cavallo, non lo so, o cosa cavolo ci buttano di lì in mezzo, a tirare queste monzette, si riproducono, ce ne sono migliaia. Io non conosco nessuno che è a questo regolo cavallo. Tutto avere conoscenza lui, lì è pure un punto che tu non puoi entrare, quindi se lui vuole ti va di lì a poco. Questo mio abitava di fronte, lui c'è quella costruzione che c'è prima dei carabinieri sulla sinistra con le case popolari, l'hai mai vista? Lui stava di lì, entrava dentro, adesso magari è più controllato, lui non conosceva nessuno, lui entrava così contro il suo, poi se c'era qualcuno lo vedeva, stava facendo un non dice, ma lo sai neanche nel biliardo, ma non sapeva dove messo. Quella è in zona Giosca, di che adesso che mi è venuto in mente. Giosca, sì, da lì poi scende, va sotto, e passa sotto il vialotto. Quindi non il vialotto, come si chiama, sotto le gallerie, quella zona lì. E io non so, c'è la villa mio cognato lì. Una bella zona di lì. Sì, una bella zona. C'è la villa da quelle persone incontrate di Sassari. E poi quella strada si collega a San Pietro, c'è a San Pietro, non so se ci sono mai passati. E dire che mi sono provato male il motto lì. E c'è anche quello che vende le bibite, come si chiama? C'è una troppa. Ehi. Ma non c'è più cosa da vedere molto quella. E io non so, conosco quella zona lì perché ti sei c'è da Cuneo, c'è abitato a Cognata, c'è una villa che pare un castello. Gaffa gaffa. Sì, sì, tutto blindato, tutto sotto osservazione, telecamere, casi di guardia. E forse vedere i ladri circolano. Sì. Non so le ladri, no, anche i rapimenti. Quando c'è solo diciamo qua sarebbe un po' più difficile, comunque è meglio non fidarsi mai. E chi ha un po' troppo a dire la via del biliardo, a nuovo. Ma mattino vi avviare il biglietto. E allora? Sicuro. È quello del mercato all'ingrosso, le ho preso quello della tagliata lì, che non avevo bisogno di no. Chi è del mercato all'ingrosso? Che stai dicendo? Scala. Boh, non la conosco. Ne avevo tagliata anche lì, non te lo ricordo. No, ma dico un po' troppo, pensavo fosse zona del Morese, ma avessero preso di lì. Però fa, c'è una cosa... È una stanza, non era nuovo. Te l'hanno rapito a Sassari, dentro Sassari. Sì, io mi ricordo di sì. Non lo so, non insisto, ma pensavo l'avessero rapito nel Morese, diciamo, lui è di nuovo, non è di quelle zone lì. Guarda, io sono un meccanico della nipote, quindi posso chiedere. Vabbè. Io già ne ho, c'ho due amici che a uno il padre l'hanno rapito e l'hanno ammazzato e l'altro l'hanno rapito però gli hanno pagato riscatto. Quindi a Sassari possono farlo come possono fare le altre pure. Non è che sia diverso, capito? Tu vedi gente tipo Multine e due saliti, tranquilli sono, quelli ci hanno ascolta, c'hanno gente che li controllano, hai compreso? Guarda, la guardia giurata che c'era la Salis, che adesso è morta, che era mia zia, era un mio amico, e mi faceva così, 24 ore su 24 per due, perché qua c'è la sera abitudine della famiglia, poi c'è l'orario, perché io molte volte sono stato a farmi compagnia di notte, e faceva anche la mattina. Conosceva l'orario di 5:30 l'orario giusto, la figlia che stava per l'ora, il figlio che stava per l'ora. Dopo che erano entrati tutti, lui era in allarme, si sentiva rumori. Papà, ci sei andato tu nelle ville di Sali? Io sono andato anche dentro, l'ho girata. Ti sto dicendo che la guardia giurata che faceva il servizio lì era un amico mio, e di notte andava a fare compagnia, un medico, pensavo anche tutta la notte. C'è un terreno allucinante, roba dei giardini, ci sono entrato per questione di lavoro a vedere delle cose. Cavolo, ma mi sono impressionato, c'ha un bosco dentro, frustetto, oliveto, di tutto, c'ha delle calze, mamma mia. Sì, conosco tutto. C'è anche la fettura con i trattori, ho visto tutto quanto, tutto quello che c'ha, l'ho visto perché io non accettavo, dovevo fare il giro, quando facevo il giro dovevamo insieme, io con il cane passavo il telesco e lui con la pila illuminava. Lo stesso chi ci aveva almeno per stare attento era Scardo, molto sinceramente. Ma di Scardo conosco, non so chi sia, però so che è gente che deve stare attenta alla mattina, perché appunto c'è questa gente che deve stare sulla mattina, vuol dire che e non è sociale se accalando un bene. E vabbè, ma è subito c'è di Accardo. Per farti un esempio di Accardo, lo sai chi è Accardo? No. Accardo era quello che in casa aveva i soldi delle tasse, della BPS, non so se ti sono legato al colpo. BPS riscossione, non capisco. Era quello che nella provincia di Sassari dichiarava più soldi, ma secondo tutti gli anni consecutivi non lo passava nessuno. Ah, chi era? Quello che abitava in casa Corrino. Quello lì l'ho preso in ambulanza. Ed è un grandissimo prepotente, sei vivo, non lo so, maleducato, guarda. Mi ha detto, mi ha preso l'ambulanza, si muove, ma questo è quello, dottor, scusi, si calma un attimino, guarda che noi siamo fatto il servizio, gli stiamo facendo una cortesia per portarla a casa. Io qua c'ho caldo, non se c'è l'aria condizionata, che cosa devo fare io? Se c'è caldo, c'è caldo, se l'aria condizionata c'è il un prepotente, un maleducato, ogni sa che si deve la riesce. Oh, ti ripresente che sono una famiglia, cioè sono tanti fratelli, non è uno solo. Guarda, Corrino nell'angolo, guarda, come se quasi di fronte al rifornitore, quella prima che fa angolo, è quella sua, perché me lo ricordo bene, c'erano i servizi, tutti quanti i vestiti, c'erano tutti quanti così, i servizi, poveracci. Sì, sì, già è lui, già è lui. Ho capito, ma vivo è. Non te lo so dire, tonto. Comunque era una persona che di là non sta bene punibile. A Sassari si sta dicendo da quello che dichiarava più di tutti, in assoluto, ma non è dire di poco superiore a un altro, di un bel, di diversi miliardi. Diciamo che molta gente si crede che perché c'è i soldi può fare ciò che vuole negli altri, ma questo non è un motivo valido per fare ciò che vuole delle persone, di prenderle a voci, cose quell'altro, quindi oltretutto stiamo facendo un certo tipo di servizio che io normalmente cerco di capire il paziente, potrebbe avere delle patologie che la fanno nervosire, ho cercato di calmarlo fare un po' di volte e questo qui non ti dava mai modo di ragionare, di fare niente. Voci, cazzo è arrivata tutta, l'ho tenuto fermo, più gridava più lo tenevo fermo. E purtroppo i maleducati e gli arroganti ci sono. Io conosco gente in una certa posizione, molto ma molto umile e tranquilla, poi vede l'ubrimo guato qualsiasi, io diciamo, la stessa le chiamano i fidocci a sardi. Io conosco gente che ha soldi e che non si mette sul problema, amico di tutti. Io ho un amico che ho detto si sta comprando un panfilo, anche se è un panfilo, un man mano, e su di linea con la denominabilità mi ha pagato questo, ha pagato l'altro, quando siamo in barca non guarda spese, va, si dice tutti quanti che c'è per comprare questi tipi. Quello in barca va alla sala, non vero, compra sardine, una cassa di sardine, questo e quell'altro. Calamenti, ma cos'è di là che ci lascia? Poi già, cosa facciamo? Andiamo al ristorante? Cosa fai? Mangiare il ristorante per ritornare. E allora prendiamo due o tre soldi. Tre soldi, mi dà tre soldi, mi via cosa di bussi di mezzo chilo di patatine di quelle arrosto. Cioè, non guarda spese, ed è una persona umile, tranquilla, che infatti viene sempre invitata dalla nostra grefa, perché praticamente è il ragazzo di una nostra amica. Diciamo che è un tipo di lombellina, perché ha un tipo di lavoro che lo fa guadagnare come si deve. Non li ruba, li guadagna, però a ci può essere tutti gli iscritti. Io mi ha detto, già da ragazzo io avevo due genitori che erano padre e padrone, ho preso e me ne sono preso a 16 anni a Milano, lì ho cominciato a lavorare in fabbrica, poi ho fatto fortuna, ho cominciato a capire qual era il tipo di lavoro che poteva andare bene per me, l'ho portato avanti, sono arrivato di nuovo a Sassari, ho preso e ho cominciato a mettere gli operai, questo e quell'altro, adesso c'è due figli che lavorano per lui, però ti dico che è un lavoro che lui rende un bel caffè, ma lui è rappresentante di qualcosa. No. Macchinette. Quelle che fanno buttare via i soldi. Ah, di quello stai parlando. Vabbè, non mette tutti i giri di macchinette, non se ci affidi per le cose, non è un bel ricordo. Quello rende un bel lavoro. Quelle aggiustano, le fanno. Ho lo zio di mia moglie, così è zuffa di quello, è stato forse il primo a Sassari che è occupato di questo genere di soldi. Ma chi era? Quello dove ci lavora Giuseppe, quello che c'è Cappucci? Non lo so, io ti posso dire come si chiama il nome, è l'iniziale del cognome. Ma no, dimmi solo l'iniziale del cognome. Sì. Con la T? Sì, di Palermo. Ah. Kappa, no, perché se la T poteva essere lui. Ma comunque tutto, capito, di quelle palline che escono, pupazziti, erodibusi, tutto quanto, di per biliardini, biliardi, macchinette in genere. Sì, no, questo qui è la stessa cosa, è stato il primo grande di età, cioè, avrà adesso penso 60 anni, e poi da lì sono nati tutti gli altri a Sassari, cioè, se li ha portati a presto i dipendenti suoi, hanno sono entrati nel giro. Lui all'epoca aveva un sacco di lavoro, adesso piano piano se ne sta uscendo, non ne ha tutti di nulla, però di là già una via, Bruetto. Ma adesso ci sono cose che vanno di più, capito, Robert? Adesso per dire una moda quasi giocare con queste macchine che ha scommessa, buttati via soldi così perché fa buttare via i soldi. Bisogna stare attenti a giocare con queste macchinette, questi giochi d'azzardo, queste cose qua. È quasi una mola, capito? Io vedo gente anche di una certa età che va a giocare e comincia a buttare soldi, a buttare soldi, a buttare soldi, nuova cosa. C'è quella del macchino, la vera prima di sigarette, sempre giù in guadagno, macchinette, sempre attaccata alle macchinette. non è il senso mio. Io in vita mia a questi giochi video poker mai li ho fatti, li ho solo visti, assolutamente proprio non mi attirano. Ma nessun gioco, a me un po' da ragazzo, sì, se ci giocavi a biliardino, ma si butti lì, non più di tanto, no? Per dire, tutti diventano sempre per le PlayStation, a me non me ne ha fatto brutto nulla. Ho altri interessi, dai. Il gioco, videogiochi, cosa da dire, non me ne ha fatto niente. Anche io a casa c'è la PlayStation, c'è anche quella modificata che si può mettere anche i CD che non sono veri, ma non me ne ha fatti nulla, capito? Giocano i miei figli che sono piccoli e gli do anche dei limiti, capito? Non li lascio tutto il giorno attaccati al televisore come fanno certi genitori che poi tu si dicono e tanto non fare casino, allora li mettono al televisore, la PlayStation e via, e sono tutto il giorno buoni, li robotizzano praticamente. No, li do quel tanto giusto, perché Marco per dire è riuscito a fare 5 livelli addirittura di quello di un gioco e voleva fare il certo livello a tutti i costi per finirlo e bisogna mandare a tavola un giorno, perché li salvo, quando tu mi finisci un livello glielo salvo e poi lui lo riprende da lì. Mi affido a questo con i giochi, ma le do un limite, dico blu e malduccio, lascia aperto. Ma allora piccolino diciamo non è che neanche che ti ritanto, a lei le piace mettersi a disegnare, a guardare i libri, tutte queste cose, a lei si fa tutti i discorsi da sola, la piccolina, mentre Giorgio la più grande, lei a 3 anni era già col computer, stava già giocando col computer. Marco a 4 anni c'ha già scrivere, non so se tua figlia lo fa, ma Marco scrivere il nome mio, sa scrivere il nome suo, sa scrivere Streck, che non è una parola facile, sa scrivere Zoro, sa scrivere tante cose, sa fare la lettera A, la lettera B, eccetera, eccetera, tutto da solo è imparato. Guarda, c'ha un'intelligenza, una cosa allucinante. Questi bambini se li solleciti diventano sono molto più facile di un adulto imparare le cose. Tu magari se ti metti a studiare un libro, se lo devi leggere 4-5 volte vai imparando. Loro alla prima lettura, alla seconda lo sanno già quasi a memoria. Senti Alberto, guarda, io faccio l'università, non so che cosa gli ho preso, non te lo immaginerai mai. L'hai preso? Presente quei mentoni, quello che ho fatto il computer per bambini. Io ho preso anch'io, sono anche un mese di là, sbagliando, col computerino piccolino, perché sono tutte le giochi interattivi e tutto il genere. Io c'è tutta roba di forma la frase, vedi cosa c'è scritto, finisci la frase, gli manca la lettera, magari la deve finire. Quindi comincia a imparare la lettera così, giocando imparano, capito? Sì, sono comprato anch'io, 2 Natali fa l'ho preso alla grande, che adesso sta giocando anche la piccolina. Ci sono tutti questi giochi con fone, certi dicono 3 numeri, c'è cosa manca qui, oppure che lettera ci manca qui, oppure la somma di questi numeri, che numero manca, un sacco di cose, no, sono utili a livello di insegnamento questo. Sì, adesso sai cosa che vorrei manco, uguale, questo deve essere anche preciso, boh. Ci sono queste tutte lettere, io a mano le avevo comprate anche quando era più grande. Però a Marco glielo ricomprato perché non funzionava più, l'ha confermato che funzionava, la accende non accendeva più, c'era mille luci, ne prendiamo un altro. E lì con questo computer, come finisce le batterie? Si diverte, non sbaglia una, una che una, non sbaglia una. E poi una volta che capisco il coso, l'ha andato, diventava bravo. Ma spesso le cose che se non metto io magari sbaglio, magari soddisfazione, non perché lo so, però lui è proprio veloce e fa giusto le cose. Ma guarda, io per dire, ieri mi sono messo a dare una mano a mia figlia per i compiti, lei è in terza elementare, io ho visto questi compiti, io dico ma non è possibile che li facciano fare queste cose così complicate a scuola in terza elementare, noi le facevamo nell'ultimo anno di quinta elementare o in prima media certe cose, loro li vedono in terza elementare facendo le, come si chiamano, le combinazioni di numeri, cose del genere, infatti molte volte se mi metto anche io, che per dire matematica mi è sempre piaciuta, un po' di difficoltà prima di capirlo, infatti se dico a mia moglie ma come è possibile? Eppure gliele fanno fare e tu rimani a bocca aperta perché non è possibile. Vabbè, ma sono più finiti alla fine, è vero che è così, addirittura io non vedo mia figlia sempre facendo i compiti, poveraccia, non mi lasciano manco il tempo per respirare un po', per guardare un... se invece fa i compiti col televisore acceso, non ha proprio guardato il televisore, allora fa i compiti, se deve fare le scritte, ma se deve studiare, si si deve spegnere il tutto. E fa, sta a farsi per tutta la sera. E quindi cerchiamo, come uscire. Ah, io non è se non ti faccio uscire, non c'è il vicino, no? Capite, ma andiamo a fare io qua vicino, no? Mi cercavo, c'era due studio, questo e quell'altro, e tu non mi fai uscire. Non ti faccio uscire perché è già buio, Manuel, non ti posso mandare a 13 anni io con tutte le cose che si sentono. Ero solo una tassistica, poi 13-14 anni, soprattutto per una ragazzina. Un ragazzo è brutto, ma una ragazzina è ancora fresca. Deve stare un po' attenti. Io ancora non ci sono arrivato a quell'età lì, sono ancora proprio al limite del bambino, diciamo. Tua moglie, tua figlia è già adolescente, in un'età un po' critica, bisogna stare attenti come si muove e come si muove lei. Beh, lo so, sarà la pubertà, quindi il carattere si sta formando, però io, beh, di fare mettere i figli sopra mia figlia non ci piace nemmeno, capito? Mi viene a guardare bene perché se no poi lo fa prendere un sopravvento e si fruttifica. Io lo so, però è brutto, cioè, ti sto dicendo, forse la figlia è più geloso di una bambina, di una ragazza, che non è bambina, è una ragazzina, è geloso, però prima o poi dovrà essere indipendente, uscirà, si farà il ragazzo, eccetera, eccetera. No, mamma Manuela esce con le amichette, però in ora di uscire, capito? Se capita che lui deve andare con un'amica a comprare un profumo per dire con un'altra nostra amica che fa gli anni e cose, io la mando, non c'è problema. Tutto che non scopre che magari lui non mi dice la verità, ecco, quello non lo sopporto. La famiglia adesso è il periodo delle discoteche, delle cose, magari a 13 anni è ancora più pulita, però a 14-15 anni iniziano già ad andare a ballare, diciamo, la sua figlia è ancora in famiglia, così è. E io? Quando va alle superiori, e lì iniziano già le nuove esperienze, le amichette più grandi, eccetera, eccetera, che viene a ballare, fai quello e quella. Io me ne accorgo perché ne una sopra di me, la figlia di un amico, di un'amica, che abita sopra di me, la stessa cosa, che l'anno scorso stava giocando con le bambole, e poi la vedi l'anno dopo, si è iniziato a fare il primo trucco, vestirsi un pochettino diversa, uscire con le amiche, tra vedi, già con i ragazzini, e cambia tutto dopo un anno. Sì, ma purtroppo, vabbè, la vita è quella, non è che puoi stare chiusa dentro a una buccia di vetro. Devi solo instradarle sulla strada giusta e poi loro vedranno che cosa fare e cosa non fare. Hanno già anche una mente molto sviluppata con l'età di... Specialmente adesso non sono più drumiti, capito? Quello che ti voglio dire. Attualmente tu devi dare l'educazione giusta. Poi loro vedranno che cosa fare, se sgarrano non sono fare i suoi. E poi le indichi la strada, poi loro le esperienze che dovranno fare loro, e poi se sono intelligenti dovranno capire quello che è giusto e quello che è sbagliato. Vabbè, quello che è giusto e quello che è sbagliato, io posso anche dirlo, però senza parole. Infatti è lei che dovrà viverlo, capito? Non è che è come tutti i ragazzi, non è che ti puoi legarle, che le puoi... No, assolutamente no. Certo che in questo periodo è un po' critico, molte volte io sono stanco, mi tocca anche lottare, è un po' critica come... E diciamo che il compito di genitore non è molto facile. Ma soprattutto con i tempi moderni, quando erano ragazzi noi magari era diverso. Adesso ci sono molti problemi più gravi rispetto a prima. Lo so. E magari prima non si sentivano le cose, adesso c'è più, diciamo, più notizia, più pubblicazione delle cose, invece prima veniva anche nascosta, capito? Quello già è vero, però adesso a 13 anni, 14 anni, adesso le cose sono molto diverse da prima. Noi eravamo, non dico io in particolare, però in generale eravamo molto più drumiti eravamo. Io mi ricordo che mia madre mi diceva stai lì al mare, io non mi muovevo, si era non mi di via Ed. Quando andavamo alle case, mi diceva Giovanni tu una caramella. E io guardavo un mano e facevo sì di gonca. Guardavo la caramella, mi prendi un altro, non fare complimenti. Io guardavo un mano e faceva accenno di no. Infatti io aspettavo dalla voglia di prendere un'altra, però la prendevo, capito? Quando uscivo fuori, non mi diceva a me, tieni già la caramella, te la do io. Sei stato bravo, ricordati sempre che non bisogna essere sfacciati nella vita, e questa cosa mi è rimasta. Vado, mi invitano a un pranzo, una cosa, che magari non ho molta confidenza. non mangio nulla, ti danno la roba, scusa, no, non ci voglio, magari ho voglia di prendere, ma capisci? Si ha fatto fare un'educazione, ha avuto una buona educazione. Diciamo, da una parte è buona, dall'altra è troppo rigida, perché adesso non è più così. Adesso tu dire, ragazzo, prende la caramella, dico, lavora, fermala via, te la guida, non è che non rimane in problemi. Possibilità di rubare il frigo. Ancora uscendo lo so già, sono con un gas, le batterie stali che stanno lampeggiando, sto arrivando discretamente. Sì, sì, ma è meglio di dire che cosa hai fatto. Ti è arrivato senza carica batterie. Cosa mi è arrivato senza carica batterie? Il portatile. Ti è arrivato con carica batterie, con pacco batterie. Ma io l'ho comprato al negozio. Ah, è vero, l'avevo comprato a meno, ma c'era tutto. C'è tutto quanto, c'è il carica batterie, come si chiama, preservantemino, melato di gomma, e basta le batterie incorporate, le accumula tutto. Ma per caricare le accumulate devi togliere fuori le batterie, oppure inserisci il pinotto nell'apparato? No, c'è scritto charge in alto, ci sono due buchi, uno per l'alimentazione esterna e l'altro charge in alto, il secondo buco lo ricarica. Ah, onesto. Ma come invece non... arrivati anche quei due porta batterie, perché cosa servono qui? Fare due batterie in meno? Sinceramente non so cosa sia, non ne ho io di questa cosa. Sono delle batterie filo dentro all'interno, normalissime filo ricaricabili. Otto. Fece un pacco di e con il nome di scusa. A te guarda la roba. Adesso ho girato la partita, perché la c'è giù? No, voleva fare con il cane sopra del chiudi, ma due litri fatti proprio di chiudi, in più ho messo questo blocchetto di gas vecchio, e chi sbagliava con la maschera lo spaccavo sopra la pancia. Se dovevi prendere un maschera legale, un letto di chiudi, mamma mia. E infatti lo dovevi sempre fare una cosa del genere. Vabbè, comunque la tipa che lavora lì, dai, che la sopra la macchina, in gamba, ma comunque gli ha detto si vincerla, e lei gli ha detto Marco, e se lo diceva Marco, la buttava, ma invece non so quindi via la sta tipa, e invece ha vinto Marco, per un punto ha vinto lui, anzi a me la macchina non posso la portare via, non me, vedi che la porta a te, gli ha detto tu. Che attacco l'alimentatore che si deve fare delle batterie. Io invece avevo un attacco per la tendisia e l'ho fatto con le spine per casa. Ah, ma io non c'è più. No, ma non c'è niente. Ah, cucaccia, cava, cava. Io mangio come dal letto, andiamo a Orfeo. Il mare è strano, il Mario è presto ancora. Ma si trattiene tanto, però di solito magari chiede più tardi, verso le 11 magari, 11 qualcosa. Infatti il mare è strano dal letto. Gappa, gappa. Comunque, se te l'avessi fatto poco fa, Rombè, già che c'è in fretta, ma con di la bici, mi ha attaccato nell'alimentatore. Luca, quando devi essere papà, te la devi raccontare tu. Gaffa, gaffa. Già non sono qui, diciamo, pezzo di gole. Sono pezzo di gole, sono problemi, sono gioie, dolori, è tutto ciò. Lo so già, lo so. E mi pare che ne ha fatto crescere 5, per adesso dire, da sola. Ha fatto una grossa cosa. Ma quello che fa una madre, ha 5 figli, non riesco a fare più una madre, quindi c'è problema. Sì, è vero, lo dice anche mamma. Dice mamma, lei dice a fare male te con figlioli, ma te con figlioli a fare male alla mamma, non riesce a aiutarla, ma ti vuoi... come... niente, è un casino, lo dice sempre comunque mamma, sempre. E perché così? I figli del genitore si sono affrontati. Io penso che ogni libro è delle preoccupazioni che il figlio cresca sano, che cresca nutrito, che abbia tutte le cose possibili e immaginabili, perché ogni libro se gli va a rubare la bocca per dare allo figlio, scelta lo genitore. Però poi i figli una volta che si sposano, a volte si dimenticano anche di andare a trovare un genitore, lo sai? Io lo so Gianni, già lo so. Io faccio mio padre che ha peccato la sorella, io ho peccato la sorella. Se non mi farebbero mangiare, mi dico e basta. Cosa? Già sono? Sono a Natale, lo invitano, capito? E basta. Ma perché non vedo l'altro quarto? Dove sto questo già che facciamo la macchina? Sì, ma quello non è quello. Volevo vedere che danno per fatto. E bella viene in banana 40.000 blatti, sai che? Cazzo? 40.000 blatti. Certo. E allora era così, erano i più soldi, no? Quando si sono sposati loro. Se va a recuperare la casa, non ti basta niente, 100 milioni di euro. L'abbiamo venduta 130 milioni. 130 milioni, quando c'era ancora la linea. Andava. Vedo un po' se è arrivato Roberto. Sì, ci sono. Ripeto, è arrivato un attimino, questo pezzettino, cosa spacca, non so qua. Sto girando anche io con lo suono, sto guardando, è stata una macchina nuova, sì, sì. Mario, c'è ancora, già? Chi? Anni, tu me la vai. Aspetta se c'è ancora Mario. No, io stavo mangiando, boh, è uscito da Pisa, 5 minuti. E poi vado a mangiare qui, mi pare che mi dico. Io pensavo che non entrasse più la Pisa. Così. Non so, mi lasciate, sono Mario. Sono rimasti solo io, tu e Luca, eventualmente Mario, no, dico degli altri, il coso, Natalino e Salvatore non sono rientrati. No, ragazzi, come notizia non ascolto. Ma tua madre la moto è morta già? Sì, oltre 12 anni. Allora, quello lì è stato, secondo me, tutto per l'inquilino dell'ospedale. Dove è morta, in casa o dove? Allora, praticamente avevano ricoverato mio padre al policlinico, perché doveva fare una cura che se la facevi fuori costava un bel soldi a fiala. Costava oltre 60 euro a fiala e doveva fare una cura lunga, senza fare questa prostata che avevano. Fatto sta che mia madre andava a trovare un idioma, avanti indietro. E questa storia qua venne demolita molto, se si è sentita male all'ospedale da mio padre. Quindi i dottori l'hanno preso, l'hanno chiamato i dottori, l'hanno fatta coricare, questo e quell'altro. E poi è ritornata a casa e mia sorella mi telefona a casa di mia madre, mi dice già, così, mamma c'ha questo dolore al petto e gli fa male anche il braccio. Ho detto, guardate che sono lì un principio di infarto, sto arrivando io. Ho preso, sono arrivato, sono andato a prendere l'ambulanza, mi stavo tutto tremando, allora ho chiamato dei miei colleghi di un'altra associazione, mi ha fatto arrivare a casa, l'hanno presa, caricata, l'hanno portata all'ospedale, e come era direttamente in terapia intensiva. È stata una settimana lì e poi gli hanno detto che andava bene e cose. E l'hanno ricoverato in reparto e una notte c'è stata a prendere il bagno, c'era questa signora che stava aspettando che tornasse indietro lì per entrare in bagno, questa signora invece non tornava mai, allora è andata in bagno e l'ha trovata di sera in terra nell'antibagno ancora viva, ha chiamato l'infermiera e siamo tutti prendendo il caffè, ha chiamato l'infermiera e hanno cominciato a andare in linea, questo per l'altro non si è ripresa e c'è rimasto. Si sta dentro l'ospedale. Sì, infatti l'hanno fatto la autopsia. Vabbè, io ho un cognato di mio fratello che è cardiologo, lui ne ha visto tantissime di gente morire e salvare di queste cose, per queste cose che ho detto, però se ti prende in certe situazioni non c'è niente da fare. Beh, quello è esatto. Infatti ti può staccare il cuore in due. Anche in camera operatoria, cioè in sala operatoria, mi è capitato, dice, pronto con tutte le attrezzature, dice, secondo come ti prende non c'è niente da fare. Sì. Mia madre praticamente il cuore che hanno trovato attaccati in due, io ho parlato con chi ha fatto l'autopsia, 10 conoscenti, mi ha detto già, mia madre aveva il cuore spaccato in due. Purtroppo sono cose brutte. Allora lì ha avuto un principio di infarto, il dottore ce l'aveva già detto, che probabilmente non se la salvava, anche se è forte di cuore. Quando c'è queste spaccature, cioè gli infatti sono praticamente spacca una parte del cuore, quando sono grandi, poi non ce la fai più, perché basta che te ne vengono un altro e ci rimane. Il nostro cuore non è un dato troppo importante, però se hai dei problemi è un problema grave, ti metti a posto. Quindi mio padre, non ho messo forza al cuore mio padre, così. E siamo andati a fare un'operazione di cataratta, perché lui non ha tutto se l'ha operato e ci vede meglio di me. Quindi ha detto che si è un'operazione anche a quello. ma tu hai una certa età, 94 anni, te la senti di fare questa parte, non per non volerla fare, ma tu mi sembra un po' inutile, no, io non voglio diventare cieco a dare fastidio a voi. E allora l'abbiamo portato, fatto il televisito, e abbiamo deciso di portare anche da un cardiologo prima di fare l'operazione, no? E poi gliela fanno al laser, ma sempre è un'operazione. A questo che già questo cardiologo si può mettere questo prisma per aiutarlo con i battiti cardiaci, certo, perché con le sedie un fischiato, questo e quell'altro, però è invecchiato con gli anni, con lui. Non è che è invecchiato perché ha fatto questo troppo, che cosa. Si è appagato. Comunque, se le hanno fatto fare vuol dire che la televisione va a farlo. Sì, ma sta bene, tranquillo, non si capisce nemmeno che ce l'abbia. Ormai è diventata una cosa, c'è un sacco di gente che ce l'ha, diciamo, fanno vite normali. Lui, diciamo, è anziano, di età, deve stare un po' controllato, però è quasi una vita normale, ormai, con, diciamo, con la tecnologia. Sì, ma attenzione, il prisma che non è come la papalice, come si chiama, il bypass, è diverso. Per me che le sottocutane dà degli impulsi al cuore per farlo battere regolarmente, capito? Non è attaccato con pompette al cuore, eccetera, eccetera, è una cosa diversa. Vabbè, ma dico, rispetto a 20 anni fa già ci ha maturato il corso. Beh, certo che sì. Comunque, aiuta molto. Lui aveva anche un altro problema. Praticamente... una volta ci faceva prendere certi spaventi, guarda, da morire. Lui doveva mettere un cuscino per tenerlo sollevato, invece di mettere uno, due o tre anche. Ma che cosa succedeva? Quando lui era in orizzontale, che si metteva un cuscino solo o che scendeva, succedeva che la circolazione sanguigna si rallenta, quindi si fermava nei polmoni e gli bloccava il respiro. E a questo punto si diventa la voce alta, mi sono spaventato, mi sono spaventato. Cosa fai in quel caso lì? Lo devi subito alzare, di modo che possiamo vedere in circolazione, capito? Cosa fai, gli sollevi le gambe o lo fai sollevare a lui dritto? No, a lui faccio sollevare. Faccio sollevare a lui, di modo che possiamo vedere i circoli bene, capito? Ma ci rimette 2 secondi, dai, a riprendersi. Ti fa pirare, se ti spaventi proprio da un parte, capito? Ti senti... è diverso, eh? Lui non riesce a farlo da solo, questa operazione? No, non riesce a alzarsi. Qui bisogna stare attenti, se l'avete vicino, la porta vicino. La porta con la porta aperta, sempre. Possibilmente per sentirlo. Sì, una volta mi sono fatto il soprassalto. Ti spaventi, sono allucinante. Ma quando sono non lo sto più facendo, perché... il battito cardiaco è regolare, quindi riesce a fare la circolazione sanguigna normale, capito? Ma tu sei l'unico figlio di avere tre testati? No, io ho 4 sorelle. Beh, tue sorelle non se ne occupano tuo padre. No, me ne occupo solo io e mia moglie. No, sono i miei tue sorelle che sono sposate, figli, tutto a posto. Sì, sì. Allora, la loro famiglia. Tu sei l'unico maschio. Yes. Se normalmente queste cose se ne occupano sempre le femmine, almeno per esperienza personale dico sempre le donne che se ne occupano dei genitori. Raramente i maschi, tu sei forse l'unico caso che ho sentito. Quando se ne occupano. Diciamo che non fa comodo nessuno per una persona anziana che ti limita in certe cose, quindi. Sai, come. E quindi. Io ho preferito prendere lui piuttosto che mettere un istituto mio padre, capito? E già lui è dopo quello che vi ha dato, infatti molta gente si dimentica di questo. Forse perché l'ho trovato me che è uno spirito di volontariato, di cose che è allucinante, capito? Loro volevano mettervi praticamente una donna a casa. Una donna a casa prima di tutto gli rimane tutta la pensione, ogni mese gli rimane la pensione, perché e non basta nemmeno perché bisogna aggiungerle. Già lo vedo, e poi la notte la te lo dai in mano. Infatti, questa donna che gli notte la sua, lui si intende i mani, e questo problema qua, se gli viene quando non sei solo, un casino. E me lo immagino, poi non è la stessa cosa di un estraneo, cioè come un parente. E poi a casa gioca con i nipotini, ride, fa scherza, gli fa dei dispetti, gli cambia il canale del televisore, lui si incavola, perché c'è il movimento. Suo padre fuma o fumava? lui da quando era in periodo di guerra dice che a loro gli davano le sigarette e un panino per fine, no? Il pacchetto di sigarette glielo dava in cambio di un panino e si mangiava un panino in più. E fai te, vabbè. No, mio padre non ha mai avuto vizi di nulla, né di bere né di fumare, né di nulla, tutto, diciamo, un sant'uomo. Il salame dolce? Sempre iscritto all'Azione Cattolica, professando la cattura sacro cuore lì, quindi tutti lo conoscono bene, ha sempre aiutato, fatto, diciamo, è una persona sempre modello, quel che si dice nuovo modello, non perché si hanno a fare. Qualcuno si è già trasferito, gente di Genova, di Milano, eccetera, eccetera. Se no ho preso la casa qua, purtroppo non vengo a della Sardegna. Sì, tutti i continentali lo sono, però la usano solo per farsi le fede. La Sardegna è bella per farsi le fede, poi per acciappalli lavati, come se non un continente. Sì, sì, no, no, queste sono delle persone grandi, sono impressionanti, sono venuti qua da un sacco di anni, che vengono qua sempre per farsi le ferie e alla fine ne stanno affittato casa qua e si sono trasferiti qua. Cappagato. Sì, no, mi piace la Sardegna, specialmente i milanesi. I milanesi vanno molto in corso dei... Sì, sì, da tutte le parole, allora, la Sardegna, io mi ricordo una scena di questi amici che poi sono stati amici appena sono arrivati, loro al traghetto. La prima cosa che hanno fatto, mi scritto la fotocopia, sono andati a Balai, la spiaggia di Balai, a farsi rubare. Non è anche il tempo di dire, sì, andiamo a fare qualcosa, prendersi. Sono subito buttati in acqua, dice, mai visto una cosa così bella. La spiaggia di Balai, per dirti che il primo pezzo di mare che trovi, dice, da una fotocopia, perché non è niente di particolare. Loro, il coso, il paradiso, dice, troppo bella, il coso, eccetera, eccetera. E poi provate ad andare a Sintilla a vedere il colore del mare, lì, senza cercare la sua smeralda. Io prima era molto più contenta nella cosa, prima c'erano tutti i giocatori, con cui tutti quelli andavano tutti a sentire. Sinceramente a me non me la finiva, perché per farti il bagno è bellissimo il colore del mare, eccetera, eccetera, però se ti devi fare un bagno lo vado alla pelosa. Quei bambini erano io. E appunto si fa la nuotatina mentre i bambini non c'è pericolo che non tuffino, l'acqua è bassa. Io ti posso dire, lo ripeto fino alla nausea, il mare dove vado io non lo do per niente, diciamo la comodità che ho io, eccetera, eccetera. Sì, è bella come zona, ma... Quindi io ho preso un latte, ma lo dico, da 700 grammi. Poi eravamo al mare, io dico, mia moglie, i bambini, tutti qua. Mi sono messo la cannetta, a un certo punto sbigliato, tirato e c'era una mattina. Però ho passato un po' di più perché diciamo le roccette mi arrivano. Ma lì diciamo ogni anno la morfologia del terreno cambia, ma non più di tanto, qualche scoglietto ci sono, ma non sono di quelli dove perderò, ma la torretta sì, perché sono quelli scogli con tutti i buchi. È diverso tipo la configurazione del fondale, ma lì dove sto dicendo io gli scogli sono delle ficcate, delle pietre, ma già, a meno che non cadi proprio nel punto strano, sono come si chiama, stratificate nelle rocce. Ogni lì è una specie di un militare per pescare, di lì vicino sempre. Una notte mi hanno fatto anche un grosso pescato. Ha fatto di tutto, mi. Tu vedi quello che passa dove di lì a pochi metri dalla riva, delfini, tonni, e pesci anche importanti, li vedi a 100 metri dalla riva. L'anno scorso, cavolo, sarà stato a 50 metri, c'era questo delfino, era stato mezz'ora camminando, andava avanti e indietro dalla torretta a quelle casette che ti sto dicendo lì. E probabilmente c'era perso, capito, una volta con l'autore, un delfino piccolino, con la madre, deve essere che ha perso una rotta. È andato verso una spiaggia, come si chiama, l'Arena Lida, battiamo l'Arena Lida. E allora ci siamo messi capitaneria, i vigili del fuoco, eccetera, hanno fatto una specie di canale, perché si stava arenando nella sabbia, no? Ed hanno spinto verso il largo. C'erano dei sub che lo facevano andare verso il largo, lui andava verso il largo e poi ritornava verso l'abisso, che era piccolino, non era grande grande. No, questo che mi dicevo, questo era grosso. No, ma poi se n'è andato, questo stava camminando lì, forse l'acqua più calda, non lo so, si è avvicinato proprio, ma non diciamo, l'acqua lì c'era 5-6 metri, diciamo, non era abbastanza. Però camminava sempre nella stessa direzione, lungo costa, e poi alla fine a un certo punto non abbiamo più visto. Ma io so per questo la volta da fare nel mare mi sono trovato una volta a galla, lontano. E quella devi fare a te. Io lo so. La prima della scuola, eccetera, eccetera, e tutto. L'ho preso una donna una volta che aveva la mezza attaccata, anche la bici, avanti l'aria. Ecco, è un paio d'anni fa lì, vicino a Malai, però più verso, diciamo così, noi la vedevamo dalla spiaggetta dove c'è il delfino, si erano arenati due malenotti. È vero, sono andato arrivati i pompieri con i remorchiatori, li hanno agganciati e li hanno portati a largo. Una volta mi è venuta la terrena, c'è proprio una balena attaccata in prua. Però non mi fa sì, era enorme quello, un capolullo era. Era un tirata su, come avevo portato alla discarica, mentre io stavo scaricando il cartone. Per seppellirla, no? Ho fatto un fosso da lei, avevo la ruspa. Non mi sento che sia un fosso. Perché no, era una grullina lì davanti. Io vi sarà nel bulbo della nave davanti, della prua. E sicuramente mentre nuotavo era passata la nave, mi ha lanciata. Non era morta mia, quando l'ho vista io era ancora viva. Si muoveva ancora un pochettino, gli ultimi cenni di vita, poi l'hanno presa con la gru e l'hanno portata via. La quella lì l'avevano caricata sopra un articolato. E lì. E la cosa arrivava sotto il vetro del trattore. E io ero grande, quando è passato proprio poi il tragico più quadrato. Io ti ripeto, l'ho vista prima, ma ce la sono ancora, lo stesso sono andato a riscare, la molto ciclato, ma stavo proprio andando lì. E è arrivato il camion, l'ho scaricata con questa lì e non mi sembra che questo fosse un grande che aveva trattato la luce, noi se l'avevano avvisato. Ma dico, chi la pesca le balene recupera i grassi, queste cose qua. E se gli organi si recuperano, il cuore, il corpo, i polmoni, non so da cosa ne fanno. In Giappone c'è una afrodisia per gli organi, non so per cosa, ma loro dicono di sì. Ma c'è schifo io, quando mi sono documentato, ero con me. Io mi prendono questo serpente che è velenosissimo. Vengono a attaccare il veleno e non so che cosa. E se la mangiano, la cucina, la fanno, se la ingoiano, dice che fa bene al fegato. I giapponesi sono maschi, e l'ho visto anche io quel documentario di questo qui, devi stare attento, questo pesce a non mangiare assolutamente questa parte in tenda, e loro fanno la prova di coraggio per vedere quanto riescono a mangiare. Poi lo scugliano viso, cazzo, fanno un'impressione per cucinarlo, lo scugliano viso. No, i giapponesi sono tutta una cultura strana. La strana vedo, si mangiano le scimmie vive, le mettono in questi ristoranti, la testa che c'è solo la testa, si spaccano il cranio e si mangiano il cervello con l'animale ancora vivo. Ho visto la televisione, ho un'impressione questo animale dove si vede l'inizia nei luci dallo spavento alla scimmia, li mettevano la testa e un tavolo col buco tipo quelli dove si l'ombrellone. Che si apre in due il tavolo, si tira la testa della scimmia, col martelletto li spaccano la testa e si mangiano il cervello col cucchiaino. Che schifo. Rimessi, la niente, la crudeltà della gente. Ma io su internet non so se è una cosa veritiera. Ho visto su internet, ho filmato molto impressionante, praticamente un bambino di un mese sarà stato un mese e mezzo. Prima questo vivo e poi praticamente nel forno cucinato e il tipo che se lo stava mangiando. Sì, quello l'ho visto anche io, rotta in questa ricerca. Esatto. Io mi auguro che sia una scimmia, non un bambino, perché di lì ho visto delle scene, mamma mia. Non si è mai stata, adesso la maggior parte le hanno censurate perché c'erano le pagine, diciamo, quelle pornografiche, tu vedevi delle cose allucinanti. Infatti sono tutte censurate, non ne fanno più vedere di quelle lì. Però io qualche anno fa ho visto delle cose rimanevi blu, allucinanti. Poi non parliamo degli incidenti stradali, di gente mangiata dai tuffi, dai cani, dagli accaffizi, mamma mia. Quello che si sgonfiasse. C'era un incidente stradale di questo tipo in Brasile con una Ferrari, si è sbattuto a un pilone. Tu devi vedere come si è fatta la macchina e poi c'erano i tizi. Tu sei presente quando vai nel macello, quando macellano gli animali che li aprono, li tolgono tutti gli organi. Così tu vedevi pezzi di budella, di cervello, una cosa brutta. Io mi sta per davvero, io lo sai. Sì, a me mi è capitato una volta e mi auguro non mi capiti mai più di questo tipo, tutto crepato, ma di cose, però diciamo una cosa averlo così, una tirina, una cosa mentre di lì, è solo di queste immagini qua, no? Che non fanno vedere solo di queste cose strane, di torture, hai visto gente torturata, ho visto poi quelli fratelli di Saddam Hussein, non hai visto cosa gli hanno fatto? No, io ho visto quello con l'americano che gli hanno tagliato la testa, poi è tutto fermato, allucinante. Io l'ho visto anch'io, me l'ha fatto vedere su internet un amico, ma l'hai visto quando è entrato con l'accello nella gola, come gli ha tagliato la testa? e sentite tutti parlando, tipo, quelli sono proprio animali. È bello proprio che cacchio non le fanno vedere con le mie, l'avrei fatto vedere apposta sulle immagini, non si vede, per capire alla gente quanto sono incivili animali questi musulmani. Ma non l'ho visto qui come gli altri della testa, a sega, non è che gli hanno dato un colpo secco a sega, no? Non c'è gatto, si è più tornato volando. E se l'ho vista tutta l'immagine, una prudenza assurda, prima gliela infilata nella gola davanti e poi ha girato dietro e faceva il seghetto. Non pensavo si tagliasse così in fretta la testa, deve essere in mezzo alle vertebre passato e gliela tagliata lì. Io l'avrei fatta vedere quell'immagine lì, non l'hanno mai fatta vedere perché alla RAI forse una volta di notte l'hanno fatta vedere a luna di notte appena era successo, perché era una cosa crudele, una cosa mai vista. E farli vedere a questi balordi che quando si vedono che loro stanno combattendo per la cosa, per la religione, fai vedere quell'immagine lì e così ti rendi conto, perché dicono gli americani le torture e cose, è quello che ne hanno fatto a quel tipo, cosa devi dire? Ho detto no, ma purtroppo io con la gentile l'avrei sta quanto avanzata, tra più piccola più grande, e l'avrei cercata anche con la ruota sottoterra, quelli che si erano nascosti per aspettare anche a loro. Guarda, io non sono cattivo di carattere, però quando vedo certe cose a questi islamici, questi fanatici, avevi abbigliato una bomba, che hanno preso tutti quanti un pari, quando c'è la riunione alla Mecca, che ci sono 2 milioni di persone, bigliato e la fate una bomba e tutti quanti ammazzati, perché è gente che non merita niente, perché gli stai insegnando la civiltà, lo stai facendo per il loro bene, perché gli stai facendo la democrazia, eccetera, eccetera. Che si comportano in quel modo di lì, non guardano in faccia a nessuno, né donne né bambini, si buttano la bomba e ammazzano tanti a quanti vogliono, chi le ammazzano più sono contenti. Io ho visto come hanno attaccato questo signore di Vittoria, hanno preso per i capelli la testa e hanno fatto in alto. Se lo sto dicendo, sono animali, è gente che non merita di essere nata. Non esiste lì il discorso di essere contro gli americani, perché io non sto dicendo sono a favore degli americani, quello è un segno di nemmeno un animale si ammazza in quel modo lì, io li ho visti ammazzare gli animali, qui ci sono mai andato alla matassina. Vabbè, tu pensati io, dopo lavoro, portavo gli animali di la matassina, dovevo aspettare che li ammazzassero, per prendere con la toccana a prenderli. Guarda, io ti posso dire, io ci sono andato, ma lo, per vedere, là, c'era un amico, lavorava di lì, e mi ha detto, vieni qua, ho visto tutti i tipi di morti, no? dall'agnello all'asino. Ti sto dicendo, la cosa, secondo me la cosa più crudele è l'asino. No, questo non l'ho mai visto, io ho visto il maiale, il bue, il vitello, tutto quello che ho visto, i maiali. Maialetti. Allora, i maiali dice teoricamente tu, io so che per legge li devi ammazzare con la pistola, ma li ammazzati con la pistola, cioè li devi sparare. E aveva il maiale, gli infilava il coltello dentro la vena, dentro la vena della gola, gli oculari. Da lì l'animale ancora vivo, strillando che non ne poteva più, attaccava il cannello e continuava a usciarlo, con l'animale ancora vivo. Stai vedendo una cosa brutta. Ma cosa fanno così? Li pungono, prima gli danno una scossa con una pinza, gli danno una scossa, quando stanno tremando così prendono e dietro al coltello li pungono il cuore. Non lo fa direttamente al coso, alla gola, direttamente poi l'animale è ancora vivo, si rimanendoci sfruttando il sangue da tutte le parti, attaccano il cannello e iniziano a usciarlo e lo macellano così ancora vivo, poi dopo pochi secondi l'animale muore. L'asino invece in piedi lo sparano, normalmente non è mai da solo l'asino, ce ne sono 2 o 3, e li tenete in maculaino, l'ho visto davanti a me, al primo e lo spara, l'altro asino che era a fianco se ne è accorto che lo stavano per ammazzare, allora si è dimenato, dai cucci che tu vuoi passare ogni bugno a faccia all'animale, dai bravo, hanno le gambe legate, queste due le gambe sono legate, non si possono muovere, gli dai con un altro colpo, tu si inginocchia in terra e lo ammazza. È brutto vedere, io ho visto, li ho sentiti colui, però a proposito di questo c'è un mascone con la quacca di maiali, ti ho detto come fanno, gli danno una scossa, una volta che si trema tutto quanto, no, perché dalla scossa dalla scossa così fa si tremare, no, come se fosse un volente, e poi li pungono sotto con il coltello, li pungono il cuore e poi li aprono e li buttano, no, prima di aprire li buttano questo vascone di acqua calda, proprio di rispetto. E da lì con un gancio li prendono, li aprono e li fanno. No, quello l'ho visto facendo dal vivo, l'animale vivo lo tenevano legato e tirava il coltello, una specie di coltello a punta, molto appuntito, nella gola, gli fa un buco su, ne sputa via tutto quanto il sangue, lui continua a filare per lui, ha la bocca legata, poi di lì, ancora vivo, attaccano il granello, boom, e lo usciano, poi dopo qualche secondo l'animale, diciamo, muore di sanguasso e i dolori e tutta quella roba lì, muore di crepa a cuore, io lo gioco, poi lo prendono, lo aprono in due, in pochi secondi. Ma il maiale grosso lo sparano con le... quando c'è a prodotto delle cose. Adesso non c'è più, ma tanto io mattino non fai tutti a casa. A prodotto praticamente sai cosa facevano? Mi prendevano, mi legavano, cioè ci sono degli anelli in terra dove tirano con la corda, si abbattono il muso, no? Come abbattono il muso li sparano, pum, c'è un chiodo che si infuri, li buca il cervello. Poi come arriva in terra sta ancora tremando, sì, e lo buccano col coltello per far uscire il sangue come è tutto. Questo è l'abrino. No, no, anche qua sta stato, io li conosco quelli grossi, cioè almeno li conoscevo e conosco tutti gli ancora, quelli che macellavano, ma dice loro per regola lo dovrebbero ammazzare, però non so per quale motivo non lo sparano, perché dice il gusto del maiale è sempre qualcosa, brutto. Sì, perché dice che la piccola praticamente gli fa la parte nera. Dove viene sparato diventa nera, capito? La parte. Ma so che sì. E quindi fanno come i vitelli praticamente li legano a questo anello, li fanno abbassare la testa, lo tirano, se la cosa abbassa tutta la testa, come abbassa la testa lo sparano, e mentre si sta muovendo le zampe così un pugno di d'oro. Però l'asino, il coso, il vitello non ha reagito, ma l'asino ha capito che lo stavano per ammazzare, bisogna che ascolto l'asino, invece salvo lo stava capito, si stava divincolando prima di arrivare il turno suo. E un bello spettacolo che era stato vedere con me. Non mi ricordo per quale motivo sono andato sullo Zenino un sacco di anni fa, stavo parlando cosa dei borsi di stanno 15 anni fa, c'era questo amico che si dava lo Zenino, allora si poteva dare e mi ha detto che ti faccio vedere un po' la roba. Ma io stavo andato. E curiosità, non è che si chiama, non è che se ne manca. Io guarda, ti fa una cosa, io vedere ammazzare l'animale mi fa male, dico la verità. Però io ho costretto perché dovevo scaricare il vitello, praticamente portarlo lì, come venivano, come se fossero anilli. E gli anilli vengono invece a ammazzare, lì li appendono come quella fare che fa girare le cartoline, cioè presente rotondo, così li appendono lì e poi li ammazzano a uno. Adesso hanno messo i fattori. Però quelli sono crudeli proprio per dirgli anche col gusto di rito, io ti faccio vedere la mazzetta li ammazzano e poi un colpo di mazzetta a fronte, molte volte non vuole, non muore la prima chicca il maiale, tu devi vedere, quando sono grossi devi dare un paio di colpi, un po' si vincola, e te ne vedi sfruttando il sangue. Ah, questo è proprio per te si manca bene. Allora, ti guarda, ma devi essere un po'. Vai, rompi, da chi, con la roba, guardate le robe. Stai sentendo come in desco, ma. Forse schiacciato male la portante. No, sto pensando al differenziale della BMW che è arrivato oggi. Mi raccomando, la voglio vedere piazzata. Quando sarà finita. Molto bene, scusa già. A me lo stesso, tu non so se hai partecipato al parto di tua moglie, te l'ho fatto entrare? No, negativo. No, ma ha detto, io, infatti, io non sono tipo che si fa impressionare più di tanto, infatti quando mi vedeva un po' di volte guardando quello rosso, quello che ti ho detto prima, gli dice, ma come ti vai a vedere? Io ho amici medici e quelli non temono niente, nel senso che li vedi aprendo quando sono ferite, allargano, facendo, cioè è capitato molte volte di fare interventi anche ad animali, a cani, tagliati, a pesce, te li vedi un po' tranquilli. Quando guardavano queste immagini qua si rimanevano un po' male, poi ho detto, no, a me non è, certo non ti fa piacere, però dicevo, non è che mi faccia insuperità. Così il fatto di mia moglie, tutti tanti, guarda, non c'ho il coraggio, non c'ho il coraggio, io sono entrato dentro e posso dire, ma non per vantarmi, tranquillo, il dottore mi ha detto, lo vuoi il polso? E ho detto sì, mi ha messo subito camice e maschera, sono entrato dentro, e la mia moglie tranquillo era molto spaventata. mi tenevo la mano, ho detto dai che non è niente, proprio come tipo turismo, non mi ha fatto nessun senso, proprio assolutamente. C'erano le dottoresse, l'infermiera, dice, ce n'era uno prima di lei che è svenuto, ho detto, assolutamente, guarda già, ti posso garantire come vedere cosa dei Mussolini, una cosa normalissima, non mi ha fatto nessun senso. Proprio tutto partecipato, guardato tutti i particolari, eccetera, eccetera. La policlinica faccio io. Ma ti posso dire assolutamente, me l'hanno descritto, una cosa impressionante, ti posso dire tutti i particolari del fatto, quando è uscita mia figlia, normalmente i bambini le danno una sculacciata, non è così. Io ho corso sulla schiena di subito. Non era ancora uscito il corpo, stava già piangendo, e c'era la testa solo fuori, e tu la vedevi già piangendo. Poi come è uscita la testa, ha avuto una bisciata in faccia, è andata al coso, al ginecologo, mi ha fatto troppo arrivare. Mio figlio quando l'hanno fatto fuori, che è ancora più sgrato di colonna, mi hanno messo il tuo vicino per aspirare di quell'amniotico che poteva essere rimasto dentro, mi era un colpo con la mano e aveva buttato la pompetta in terra. Che sei pure tu, hai fatto tuo figlio? No, no, ti parlo di quando l'hanno fatto fuori per pulirlo appena nato. No, no, io tutto quanto, poi sono violastri, quando sono violastri, tipo canuti, ci sono. Però hanno portato, lo lavano tutto quanto bene e prende un po' di colori. Sì, sì, io vedo, c'è una grassa ancora attaccata alla pelle. Io vi ho fatto un filmato, mi ero bene. La chiedo ricordo, vi ho fatto un filmato appena tolto la... diciamo, appena la nastra. Ma mentre la cosa, devi dire, non è che mi sono messo a guardare più di tanto quando li hanno messi i punti, perché si mettono i punti quando fratti. Poi a volte fanno un taglio loro, praticamente non c'è dilatazione, credo io, con un taglio. Ma è una cosa abbastanza naturale. Comunque... se non c'è il cesare non vedo niente, tanto visto quando c'è il cesare. No, il cesare non ti fanno mica entrare. No, non penso più. Ma il cesare magari è molto più impressionante, però diciamo, non è che se mi dicessero vuoi entrare a vedere, diciamo, magari entrerei, forse talmente impressionante, magari mi tirerà la faccia. Però io lo sai cos'è la cosa che mi fa impressione. Subito per far vedere 200 persone facendosi l'iniezione, basta che non mi fai vedere uno facendosi l'iniezione nel braccio, cioè dove si buffano i ciuffi, tu me lo puoi far vedere nelle gambe, chissà perché, no, l'altro giorno eravamo con mia moglie per fare l'analisi del sangue, gli hanno messo, gli ha preso il sangue, guarda, solo a pensarci mi fa venire i brividi. Ma a me no, io addirittura quando mi prelevo il sangue guardo anche, figurati, e io... adesso non ci sto andando perché mi sono trascurando un po', però prima eravamo sempre in semifinale, facevo tutte le visite, adesso sono un po' trascurato, me ne sto fregando, sono pazzo. Non sai da quanti anni ho fatto il primo prelievo di sangue di vita mia? Non lo so. Avevo più di 30 anni ed ero terrorizzato perché dovevo farlo per forza per il discorso dell'officina, quando sei responsabile tecnico della sicurezza devi fare tutti questi controlli eccetera eccetera, e mi dovevano fare prelievo del sangue. Tu non hai idea il torno al ferrone, sono stato a giorni che la notte non riuscivo a dormire per il ferrone di farmi mettere un ago nel braccio. Tu di punture ne ho fatto decine, perché quando ho avuto quel problema in moto mi hanno fatto 15 punture nel braccio dall'altra parte, però nella parte sensibile, diciamo, la parte interna, solo a vedere, senso, mi ricordo ancora il dolore, non tanto dell'ago, no. Dopo che me ne ha tolto tre fialette, mi ha fatto, guarda, purtroppo te lo devo rifare la cosa perché non è uscito. Detto, no, non è possibile, tu mi guardi, beh, Marco, non lo vedi che mi ha già cavato tre, non mi sono neanche accorto. Però talmente era il terrore, lo spavento di quest'ago nel filato lento, mi sono talmente spaventato, ho preso il polso, proprio come lo stringi quando c'è un dolore forte, sono talmente stretto il forte che alla fine, cosa volevo dire, forse ho coperto il dolore dell'ago che stava entrando. No, a me non mi fa niente, sono abituato. Io c'ho una frenata dove mi sono stata buccata, sono con la brolo, me lo sono tutti da lì. No, guarda già, così quando c'era con poco molto mi hanno fatto delle flemmo. Mamma mia, non mi voglio lamentare, era un terrore, guarda, mi tiravo la faccia dall'altra parte e cercavo di non pensarci, perché era una cosa infatti dicevo no, volevo evitare, perché me l'avevo voluto fare per forza. Ed è quando ti fanno l'antipersanica, ne manco te ne accorgi, ti giri dietro, a sedere, tu, e finisci tu. Però l'importante è non mi tocchi le braccia. Invece la bocca, la farfalla si mette lì, c'è poco da fare. C'è anche il Marcolino, una volta mi hanno recuperato 15 giorni, mi facevano il freddo, 2 a 2 lire. Comunque non me lo mandavano al primo mondo, nello sbagliato alcuni di antibiotici, c'avevano un'infezione che non sono riusciti a capire cosa era. Questa febbre, alla fine l'ho portato all'ospedale. E mi hanno fatto questa cura di antibiotici, che per poco non credo al bambino, di solito la febbre è al massimo, e sono venute anche le convulsioni, le tetrosioni a casa. Sono andato più tutti tutti spaventati. Cosa è successo? Suo figlio ci ha fatto prendere molto spavento, quando lo racconto mi viene ancora roba la nuova. Poi sono così piccolini i bambini, che ti venga un po' facile che vedere un bambino in quelle condizioni. Già me ne ricordo di mio fratello, del figlio, quando si vengono le convulsioni è una cosa impressionante. C'è un tipo che mi è diventato di tasto di viola, e alla fine ho cambiato la cura, come hanno fatto questi flebolusi, mi è passato subito tutto. Mio fratello era capitato 2 volte, quando gli saliva la febbre, adesso non più, dopo gli spaventi li ha fatto prendere. No, lui era infatti spaventatissimo quando c'erano questi problemi di febbre, e i figli tutti e due, appena gli saliva la febbre oltre 39, gli è capitato per le volte le convulsioni. Alla fine c'era sempre pronto il Valium, gli faceva un'iniezione di Valium nel buchetto del sederino. Sono problemi. C'è dai figli, già si cambiano, capisce, no? Ti posso dire, la moglie ha vissuto tutta la vita, il padre è medico, un medico abbastanza importante, diciamo famoso, molto bravissimo, preparatissimo. Eppure anche lei, quando si trova in certe situazioni, che c'è tuo figlio piccolino, diverso. Guarda che il medico non fa miracoli, il medico può fare qualcosa per curare, sa come fare, però miracoli non le fa manco il medico. Potrebbe succedere anche a un medico che mi muoia un figlio, non è che sia... può succedere a tutti. Sì, ma io ho visto dei medici, cardiologi in questo caso, cioè che hanno una freddezza impressionante. Quando le ho visto il figlio, che era una situazione un po' così, tu dovevi vedere il panico gli è venuto. Allora io cosa fare in me? Andavo a fare un servizio di go kart, sono andato per tanti anni, e in questi go kart correva il figlio di un dottore che c'era con me in ambulanza, che dovevamo tenere come servizio, là ci voleva il dottore. Fatto sta che una volta il figlio faceva competizioni, una volta stavo entrando primo, questo figlio ha tagliato la pedala, mi è passato sopra con l'altro go kart. E il figlio si è sbattuto ancora e si è fatto male, è capottato poi. Poi ha preso, è uscito dall'ambulanza, si è messo a correre sulla pista, è stato un pazzo, non posso dire il cognome. Cosa sta combinando? Ci vuole la bella cucchiaio qua, cosa sta facendo? Sì, scusa, mi chiami a mio figlio, questo è il figlio. Ho detto, sì, faccia la parte, non è in condizioni di valutare niente. Preso. Abbiamo caricato, abbiamo messo la morata, lui è venuto con noi, abbiamo portato la strada, qui c'avevamo una frattura, qualche scoriazione, ma non è che fosse gravissimo. Purtroppo quando c'è il panico poi non ragioni più, devi guardare sotto sotto e può essere la persona più fredda del mondo, però quando ci sono situazioni e poi ti senti toccato, magari sei un estraneo, tu ti senti di coso, di ragionare, cioè, ma quando vedi tuo figlio senti soltanto a lui e ti dimentichi di tutto. Ti posso dire che questo qui è un dottore che io stimo molto, perché ti posso dire che per me è il più bravo che c'è a fare contatto al corso. Non lo so, non lo conosco, non posso giudicare. Però il discorso può essere il più bravo del mondo se ti toccano il figlio. Io ne ho visto tante volte, per dire, a mio fratello i figli gli veniva il corso, diciamo, in stasera, a Modigliato, stai presente. Ammodigliato vuol dire che sta andando molto, che se è ammodigliato nel risultato. Diciamo ammodigliato quando si fa un pianto e si blocca il respiro. Ho capito cosa vuol dire. Allora, i figli di mio fratello lui si spaventava, io alla fine, la moglie è molto fredda in questo caso, perché sa che non puoi morire, però cazzo diventa una cosa impressionante quando vedi che rimane 30 secondi, 40 secondi con il respiro bloccato, il bambino diventa cianotico, gli si rivoltano gli occhi, eccetera, eccetera, è un po' impressionante, però al limite si viene il bambino, però non succede niente perché c'ha un sistema di controllo, di autocontrollo, me l'hanno spiegato, e non può mai morire, non è mai successo che uno muoia. Ti sto dicendo, se tu vedi molte volte il figlio di mio fratello, tu dici non è possibile. Mio fratello diventava scemo quando aveva questo fatto fa. E per dire, in altre situazioni lui c'ha una freddezza, lo sai, poi le persone le ha salvate lui, proprio salvate la vita. Infatti vi sono un bel riconoscente in situazioni di calcio, di incidenti, colpi a testa, gente che gli si è rivoltata la lingua, eccetera, eccetera, che stava morendo affogato, salvato da lui, diciamo, non diciamo particolare. È capitato col figlio, tu lo vedevi in un passo. Una volta nella sera mi è capitato dove, allora quando era piccola, stava mangiando un panino e si è messa a correre, non so per che cosa, ha preso il piede, ha sbattuto la faccia al mobile e gli sono entrati i denti di sopra nel labbro di sotto, mi hanno bucato proprio, ma solchi barò. Quando io ho sentito le grida sono uscito fuori. Subito ho guardato cosa avesse, dove sta piena di sangue, mi ha aperto la bocca, c'era quel pane che stava masticando pieno di sangue, mi sembrava un pezzo di carne, cazzo mi sono preso un raio. Esatto. Ma poi quelli da poco mi è capitato a mia moglie appena vede un goccio di sangue lì a tema di piena. Non so cosa stava facendo, diciamo, questo inverno, col coltello stava tagliando, non so che cosa, e ha fatto un taglio nel dito, non piccolino, diciamo, abbastanza grande. E ha cominciato a fare, corri, Roberto, non so, sto morendo, sono salito correndo, velocissimo. Ho visto il taglio, cazzo, era un bagno di sangue. Ho detto, no, mi toccare, lì strillando, piangendo, spaventatissimo. Io pensavo, proprio momento, si è attito questo sangue, poi con calma l'hai pulita, l'hai lavata, perché si è mai fatto spaventare per una cosa del genere. Il taglio era grande, però, diciamo, lei se basta avere due gocce di sangue si spaventa tutto. Senti, non sono tanti, non sono tanti che così. Infatti molta gente mi ha ambulato un gatto brutto. Diciamo, questo però è capitato con mia figlia, con la grande. Stava mangiando una caramella e lì si è bloccata in gola, tu mai non sembra. Però di lì è stata brava mia moglie, mi ha anticipato lì, è andata. Vedeva una bambina tipo affogando con la bocca, così non gli si va a spiegarsi, proprio terrorizzata. È andata mia moglie, ha dato un paio di colpi dietro e lui si è tirato alla fine. Però già sta preso un bello spavento lei, la bambina, e dal giorno quando vede mangiando le caramelle, che molte volte i bambini si mettono a scherzare, a ridere, dico stai attenta, dal giorno ha preso un bello spavento e si sta attentissimo. Quello delle caramelle è nato da già vissuta, già vista. Una volta mi sono fermato via Pasqua, ho visto la mamma disperata con la bambina cianottica, non si fa respirare, piccolina. Cosa è successo signora? Gridando questa qua, aiuto, aiuto, mi sono fermato con la macchina, era l'unica persona che poteva essere completamente spavolata. Mi è stato stringato due colpi, ho fatto scendere la caramella. Si è ripresa, però l'ho portata proprio soccorso perché potevano fare. Non potevo avere avuto l'ossigeno al cervello per qualche secondo o qualche minuto, bisogna vedere, se è un quarto d'ora va bene, può andare bene, ma bisogna vedere quanto c'è stata. E perché il mare non ti è mai capitato? Non il mare particolare in piscina, tutte e due le bambine. No, no, io quello. L'annegamento mi è capitato una volta che ho fatto da pressa proprio. A me e mia figlia, sul bordo piscina, una piscina per bambini in Corsica proprio. Tutte e due le bambine in Corsica, nella stessa piscina, guarda caso. E l'acqua sta, in quel pezzettino sarà, infatti posso dire, un metro d'acqua, forse neanche c'è. Comunque le bambine toccavano. Noi sul bordo piscina, parlando con mia moglie, proprio una affianca alla bambina è stata a due metri da noi, non di più. Discutendo, giriamo, ci troviamo una bambina coricata in terra, dentro la piscina morta. Questa roba di brinco, siamo entrati fuori, era già cianutica, subito tolta fuori, meno male che si è ripresa. L'altra invece, la grande, quella lì è caduta a faccia a terra e lei si ricorda i capelli. L'ultima mattina è stata i capelli, si è salvato i capelli negli occhi e cercava di chiamare, di parlare, perché era ancora cosciente. E cercava di chiamarci a noi, non ce ne siamo accorti subito, se la porta un'altra persona, lì volo dentro la piscina. ha saputo non farlo con lei e lui. E lui dice, no, bambini, dove ci sono questi pericoli che non bisogna mai mollare, che non li guardano niente. Magari parlare però sempre con gli occhi che sono loro, perché ti frega, ma sono nulla. Beh, io di questa cosa sono prudentissimo, però di lì eravamo a 2 mesi da loro, vedete come succede una disgrazia. In mare mia figlia sta iniziando a nuotare, la grande, non è un granché, ma si tiene a galla. Quando lei si allontana, o sta a fianco a me, che ci sono io attaccato a lei, per dire me la porto a nuotare, sempre vicino a me, non mai che si allontani alla zona. Però molte volte quando sono con tutti gli amici, così, c'era la tavola del Winsers, la tavola vela, e non si allontanavano, si mettono spesso, sempre con salvagente, tutti gli altri, no, salvagente, braccioli, farla, mai, senza niente, così quando siamo in barca. L'inverno d'estate, c'è caldo, mettersi il giubbino di salvataggio, sempre col giubbino, anche a costo di molla piccolina, molte volte se lo vuol togliere, perché c'è caldo, mai, assolutamente, io dico, sono una manovra sbagliata, ti cade in acqua, e come fai a prenderla? Perché ci sono 20 metri di fondo, e quando la prendi una bambina che ti cade in acqua? No, sempre più no, è tutto per noi, bisogna averlo, non si può da fare, per tutto. Io per dire col mio amico, a proposito che c'è un amico di nuovo, che non è più andato ad andare in barca, a proposito di un barca, dice che stavamo pescando, a un certo punto sente splash, pensava fosse qualche pesce, si gira, che si vede lui in acqua, che sta negato, con mezzo marinaio, l'ha fatta attaccare a mezzo marinaio. Ma quando un adulto ti verso, dai, a una bambina piccolina, la piccolina mia c'ha adesso, ha fatto 4 anni a dicembre, quest'estate ne aveva 3 di anni. E se ci cade in acqua con la bambina, quella cade direttamente al fondo, non ha neanche il tempo di dire e di strillare. Magari una piccola più grandicella magari cade, si disincola e riesce a gridare, ma la piccolina ci cade in acqua neanche se ne accorge. Infatti ero risato, io troppo attento, ma non solo con i bambini miei, anche con gli altri miei fratelli. Ma ne vedo tanta gente in gommone, si vedono bambini piccolini, anche bambini di pochi anni, di un anno, eccetera. E li vedi tutti tranquilli, correndo, facendo discendi. Ma io dico, ma si fare senza giubbino di salvataggio? Ti cade in acqua, quando lo salvi un bambino di colletta? Perdete coscienza. Perfetta. No, ma... cioè io, guarda, dico la verità, questo stesso ancora, questo amico mio, è filiato in barca, perché cammina come un matto. Mi ha fatto sbattere anche la schiena, mi sono tenuto, guarda, per me la coppia non ci cala. Ha fatto un salto che si è staccata la barca dall'acqua. E poi c'è da dire, immaginati che lui, diciamo, mi ha fatto insaccare la schiena. Io mi sono fermato, io ero così prima in barca, in macchina magari andavo piano, ma in barca camminavo parecchio, poi alla fine ha detto, ma che me lo vai a risparmiare, consumi il doppio di carburante, perché adesso con questa barca consumi parecchio, cammino piano, mi ho messo un'elica di spinta anziché di velocità, cammino molto più tranquillo, piano piano, ogni tanto gli do una sollevatina così per farla sollevare, cammino piano, però quando ci sono bambini sempre massima attenzione. Poi in barca mi ha fatto tutti questi gruppi, dice che nei caduti in acqua ci vanno tutto, cioè era tutto vestito, capito, di quegli spicci paesani, tutto vestito, da se caduti in acqua, porta fondi, tutto bagnato, soldi bagnati, cavelli assini bagnati, un casino. Ma. Io ci sono caduto dentro il porto, se non sbagliato. No, è schifo, io mi trasporto là. No, dove, più o meno dovrei pensare tu, però verso la banchina dove c'è la gruda. E lì stavo saltando sulla barca d'estate, era stato maggio, non era neanche estate, ero vestito bene, diciamo, perché quando vai in barca non è che ti metti come quando vai in comune, ero vestito abbastanza bene, sono andato per mettere in bocca sulla barca, non avevo ancora la pedana di passaggio, vado a saltare dalla passerella, diciamo, dal pontile verso la barca. Come ho saltato, mi si è agganciata la scarpa, ci sono le colonnette dell'acqua e della luce, non so le viste, mi si è agganciata la scarpa al rubinetto, ho toccato appena il rubinetto e mi ha messo fuori equilibrio, stavo cadendo a fronte, mi stavo sbattendo la fronte all'aspetto di poppa della barca, allora ho messo la mano per salvarmi e ho fatto tutto lo sforzo sul dito mio, mi si è girato lì un durone, come sono caduto in acqua, io penso che avrò messo meno la frazione del secondo e ti ho fatto cadendo e salendo sotto la barca, mi sono completamente bagnato, però la frazione del secondo solo, tutto documento, tutto, però il dolore al dito tu non hai idea. C'è anche il portafoglio, come? Tutto bagnato dalla testa ai piedi, però sono stato una frazione di secondo, perché come sono sceso subito mi sono aggranfato, la macchina mi sono sollevato con un colpo di rene. Poi non avevo cambio, non avevo nulla, andavo dentro, c'era un costume da bagno, un pantaloncino di sotto dentro il costume da bagno, e c'era il tipo, quello del pontile, cazzo, con mia moglie ridendo, che non ne voleva ne più, e io, vabbè, alla fine ti metti a vedere anche tu, con cose che capita anche lui, ma sono caduto due volte anche io. E mi ha dato una serata, me ne sono tornato a stare con una serata e in costume da bagno, anzi erano tutti di mia moglie, e sono già testa. Ridicola, ecco. Conto, mi ferma la polizia, dice, sono polizia, la gente è libretta, vero? Tutto, c'è tutta la roba zuppa, documenti, le scarpe, cioè io sono rimasto, ho guidato senza scarpe poi, perché, come si chiama, non erano completamente bagnate, e sono salito a Cassari con un costume da bagno, a parte lo slip di mia moglie, giallo, ma è tutto il sole, che era dentro la barca, e questa serata gialla, di cosa, verso maggio o giugno, e mi fermavo a ragazzo, mi dice, ma dove sta andando lì? Se mi immagini, c'erano la polizia qui di la mamma che ti faceva così l'indirizzo. Ma poi era ridicolo, una situazione ridicola, ho preso a ridere anche, c'era mia moglie fisciata nelle risate e guardava, dice, sei caduto in acqua, non può essere. Vabbè, ma il giro me l'ha fatto lo stesso. Il giro, no, adesso sono ritrattato, mi sono fatto la lussa, mi sono lavato. Altre volte sì, era una cosa allucinante. Ho riscatto non tanto per il bagno non mi ha fatto nulla, mi fammi veramente male, meno male sono riuscito a alzare un braccio, perché tu quando testa bene saltando, basta che tu ti toccano appena appena, non c'è aderenza, cade, ti cambia completamente il salto, la coordinazione. Io sono caduto a faccia a terra verso il motore, mi sono sbattendo la faccia al motore, sono riuscito a mettere una mano e mi sono dato il coto per non sbattermi, però tutta la forza l'ho fatta sul mignolo, sul dito mignolo, la mano destra, infatti ce l'ho ancora un po' sotto dalla volta, ma zero dolore il dito quanto mi ha fatto male. No, ma una cosa, una lussazione mi ha fatto, fortunatamente non si è fatto. A tu non era un dolore, cioè quello che mi ha fatto male è stato quello lì, colpo del dito, per il resto non mi sono fatto niente. Pagato. A tu lì, vabbè. Chi non ce l'ha non succede. No, io ho un amico che una volta siamo andati a Stuntino, non so se sono vero. Dovevamo andare a pescare lui pure. E non avevo mai dopo qua però, dalle inquimazioni che ci sono. E fatto sta che andiamo, ci incamminiamo, a questo amico va a posto di blocco. Questi due giovani, molto giovani, tipi. E ci puntano in mitra, tutto l'altro. Ci suda tutta la macchina. Sento lui, mi ha detto, mi ha dalla faccia, perché lui era seduto, no? E non tutto che mi sta in faccia, se io non sono vestito in quinti non da niente. Fatto sta che stavano questi qua che hanno fatto amicizia, comunque sono stati andando a pescare, l'abbiamo detto. E non ci passa di cui facciamo a vedere cosa avete preso. Manco mai. Siamo andati a pescare sento questo botto. Abbiamo attaccato il baratto via le lenze, no? Si da giù. Sento questo baratto e Antonio, io non rispondevo, di punto rapida e l'ho preso giù. Si è fatto rotolando, e stampato era fatto rotolando sino al livello del mare. E non male sono molto grande questi carabinieri, ho chiesto aiuto, gli ho chiesto aiuto. Sono arrivati correndo, abbiamo preso il bisogno, abbiamo portato prima qui a prendere l'ambulanza, l'ha portato a Sassi. Ciao, non me lo so bene. Tutto crepato, Antonio. Ora bene. Tutto crepato, fatto credere della colonna, non della colonna temporale, della scapola. Lo so, almeno una volta mi ha fatto prendere mia moglie, non fa niente allucinante. Allora, sono saluto la gomma, eravamo ancora fidanzati da poco. E andavamo a fare le gare e a provare la velocità dentro il molo industriale, ancora non c'erano altri mali e quelle lì. E c'è sul molo industriale, hai visto la riga forania, è grande, no? Sì. Io mi fermavo solo per fare la velocità, prendevamo il comune vuoto, io ho fatto sempre salire un giorno a mia moglie, gli ho detto scendi di lì, mettiti sotto al coso, l'ho lasciata di lì, cosa da arrestarsi, sotto la riga, la patente è però. adesso vai lì e mi sono messo a provare a cronometrare il coso, la velocità del gommone. Dopo un po' di 4, 5, 6 passaggi sono orientato e vado a cercare mia moglie. Non riuscivo a capire nessun buco, una chiamata, no, dove, ma dove sei, grazie, ah, dove, per nome, stiamo andando per nome, dove sei, ha detto, sto buco, deve fare le gatte buffa giù lì, terrorizzato, ho detto, buco, ho detto, come faccio, non sapevo più cosa fare, ho detto, perché questa, lì era abbastanza alto il punto per salire, c'erano delle scalinate, invece di gradini, perché il molo è alto. E io da tutte le facce ci ho detto qua sicuramente c'è qualche buco, ci sarà caduta dentro qualche buco, non risponde un'ora ci rende. Alla fine la sai cos'era il problema? No, ma è talmente grande la diga, avevo calcolato male le distanze, lei era roba di 300 metri più avanti e io ero convinto che era nel punto dove l'avevo convinto di averla lasciata in quel punto, ho sbagliato il punto. E lei da lontano mi faceva segno, però io non la vedevo. A fine mi sono avvicinato e ho detto, ma va in ora buona. Io mi sono sceso con la macchina. Praticamente dovevo andare a versare sul diluvio, qui c'erano anche sul liquidi in macchina. E io ho detto alla mia moglie, tanto sono 5 minuti, andiamo. E poi ritorniamo e andiamo a pagare il multo. Sono così dei 5 minuti, dovevo andare alla commissione a cambiare un vestito che lì non mi stava bene. E dovevo aprire una misura nera per catapolare. Se andiamo a cambiare questo vestito, riportiamo la macchina di ispirazione, la macchina non fa roba, 2 mesi di vita ci aveva, non vedevo la macchina. E che era successo? Io invece Umberto l'avevo messo nella prima scalinata, mi sono andato a cercare nella seconda, quella forse la notte, sembravano uguali, no? Come fa? La polizia, chiama la polizia, come il casino, ero disperato. A me la cosa che mi era capitato a Cagliari, allo Sham di Cagliari, eravamo appena sposati poche settimane, andate lì a farci un giro, parcheggiamo la macchina, talmente era grande il parcheggio, convinto era di un'ora cercando la macchina, poi il problema è detto, come facciamo ad entrare a Sassari, e non era tanto per la macchina, per rientrare un casotto qua, poi alla fine cercando, ho detto, mi avevamo sbagliato il punto di parcheggio. Non ci sono più andati, anche se sono un bel ghiaccio, sai? Un paio di anni fa ci sono andato, ma già non si becchi nulla, non c'è niente di bello. Prima andavo con i miei genitori alla fiera, mi portavo ogni anno qui, mi sono più andato quando mi sono collato, non sono più andato. Prima loro andavano spesso, facevano i viaggetti in treno, romantico. No, io ci andavo spesso per questione di lavoro, perché come Fiat dovevi andare ai corsi di aggiornamento e andavi a Cagliari, il corso regionale si faceva a Cagliari, andavi almeno 4 volte o 5 volte all'anno, quando c'erano degli aggiornamenti o macchine nuove che uscivano, eccetera, eccetera. E se andavi lì, e andavi la mattina presto dove pensare le auto di lì e poi ce ne andavi la sera. A parte di cosa ci avete a Fiat come, diciamo come ci sta tutto, siete Fiat. Stavamo lavando e mezzo se ne siamo usciti, comunque noi eravamo i primi a Sassari, in provincia, nel 60 eravamo sia. Ah, e adesso siete multimarche, così? Abbiamo sempre fatto multimarche, ma non conviene, è stata una questione così, mi sono stato vicino al Fiat, perché la prima Fiat era fianco a noi, non so se te lo ricordi, e facevamo tipo noi, ma ormai non ce l'ha potuto dare, è diventato un coso. Un'anarchia, diciamo, lui deve stare a certe cose, per cui noi che siamo indipendenti, noi non ce la possiamo dare a nessuno, lavoriamo per conto nostro, non siamo dipendenti sì. Ho capito quello che tu dici, il ragionamento tutto lo faccio anch'io, col 118, quando eravamo indipendenti, noi ci facevamo tutti i corsi lo stesso, non è che eravamo così molto tornarati. Se non apro di un senso sembra che sia così come la sua principale. E quello che era infatti noi non è capitato molte volte, alla fine poi ce ne siamo andati noi. Innanzitutto ci avevi i contatti, all'inizio ce l'avevi i contatti direttamente con la succursale, diciamo, allora Fiat era la succursale, forse. Poi la succursale sono passate ai concessionari. Anche poi non parlavi neanche con la Fiat direttamente, parlavi con questi balordi dei titolari delle concessionarie, io ti faccio questo, tu mi fai quello lì, e dovevi fargli i regali in parole povere, vabbè noi non l'abbiamo mai accettato, ti dovevi prostituire in parole povere, ma siamo perdendo tutto un giro di tangenti, di strane, alla fine ho detto, beh fa una cosa, arrangiti. e quando c'è superficie così meglio avviarsi. Noi non ne abbiamo mai fatto di così possibili, assolutamente, ce ne siamo usciti fino anch'io, ma c'è gente purtroppo per lavorare deve scendere a passi. Diciamo che si è obbligato prima di tutto a fare di prendere i ricambi solo da loro, anche se per dire loro il ricambio per costa in diritto deve andare per forza da loro perché si è abbinato a quella concessionaria, li devi acquistare per forza le macchine, come si chiama, le macchine sostitute, cioè devi evitare ogni anno comprare le macchine, parole povere per loro, poi secondo loro te devi rivendere e riesci a recuperare i soldi, però non è che stai sempre rivendendo macchine, perché tu loro ti puoi comprare 5 macchine all'anno per dire, e poi dicono dopo 3-4 mesi te le puoi rivendere perché siccome ti fanno lo sconto e con lo sconto che recuperi te le rivendi, non ci perdi niente, però è un rompimento di scatole, voi devi avere macchine sostitutive, devi fare un budget di ricambi eccetera eccetera, per cui alla fine troppe cose, è una cosa andata all'andesimo, e poi ci sono discorsi brutti dell'usato e loro ti fanno le garanzie e poi tu gli devi dare dei ricambi, per dire devi ricambiare con dei lavori dell'usato, fare dei pezzi particolari eccetera eccetera, per cui lasciamo perdere. Perché ti toccano a fare ciò che non vuoi. Ma noi non, grazie a Dio non ne abbiamo mai avuto bisogno, però c'è gente che purtroppo lo doveva fare questo discorso qua, perché stava iniziando, non aveva altre possibilità. Noi quando abbiamo iniziato, mio padre ne aveva 22 dipendenti, non uno, e ti posso dire che eravamo numero uno, no? A parte siamo ancora la più anziana di tutti, non ce n'è più anziana di noi, a Sassari. Però all'epoca eravamo il numero uno, facevamo tutto, nel senso tutto da tutti i clienti, polizia, carabinieri, mezzi pubblicitari tipo Ferrero, Alemania, eccetera, tutto faceva, tutti i mezzi della Fiat perché non ce n'erano altri di officina. Era un grazie a capi grossi perché a mandare avanti una cosa del genere era un po' difficile. Adesso ho fatto una scelta a mio padre, già da qualche anno, ridotto al minimo il personale e lavori solo con quello che puoi prendere in bus, senza allargarsi. E in confronto ne guadagni molto, ma molto di più e meno preoccupazioni. Ma tutti sanno le categorie del personale, tutti quanti anche da noi, noi siamo giusti, giusti nei turni. Se c'è una malattia ti mettiamo fino. Già lo so, no, infatti non sapevo sulla testa, ma tu non sai vuol dire gestire una cosa del genere, da solo c'era quello lì che si faceva la festa perché doveva andare a trovare la ragazza, l'altro si dava malato, non so due cosa, l'altro quasi a finta di lavorare, era un po' complicato gestire una situazione del genere. Alla fine una scelta, poi preoccupato per le consegne, ti va male un lavoro e ti salta tutto, adesso non prendiamo quello che possiamo prendere e boh, solo su prenotazione e boh, ti organizzi settimanalmente. Ma interessante andare avanti e avere il necessario, non era di una tutti, di strafare, intanto a fare già una certa età, quindi il suo lavoro se l'ha fatta. Certo, ci siamo noi, ma non si deve ammazzare col lavoro, deve fare il giusto, quello che è colto, che riesce a fare, boh, senza la gente, ti scegli i clienti, perché i clienti a quel punto poi te li scegli, non devi cercare clienti per strada, perché a noi ci arrivano preventivi di aggiustare macchine di mezzi, di altri clienti, cose del genere, non le facciamo più, non mi interessa assolutamente. Lo so, perché tu hai pagato. No, da noi c'è il sito in grande, si paga la consegna, quando il lavoro è finito lo controllo, ti va bene e mi paghi, se non ti va bene te lo rifaccio, però la macchina tu non indossi fin pagando o non hai pagato, non esce nessuno. Beh, è l'unica, no, perché questi clienti sono un po' tosti da pagare. No, non parliamo di niente, io sto parlando di privati, e privati tutti l'ultima lira a fare, molte volte dicono, ma rate, no, qua si paga la consegna, se non ne hai di soldi non ne fai di lavoro, proprio l'altro giorno mi ce n'era una cliente affezionata, diciamo, che ha una situazione un po' particolare, ha detto, guardi signora, non è mancanza di fiducia, è una scelta nostra, qua rivalisce la macchina, lei deve pagare, se no non ne fa di lavoro, o si crede un prezzo, fa quello che vuole. Ma io qua, guardi signora, qua paga notizie dal parente al Presidente della Repubblica, quando c'è se pagano, se no se non le può fare non le faccio. Comunque fare il lavoro, aspettare materiale e cose, o ottenere un facente da cui non essere pagato. Ne ho tanti colleghi, non so le bruciature che hanno preso. Fortunatamente noi facciamo come commercianti, e il carrozziere, diciamo, quando come si chiama, la macchina non te la do se non mi paghi, ma un commerciante che ti ha preso la mente, quello lì, e come fai dopo a recuperare i soldi se non te ne vuol dare? casino qua. Dopo lui mi dice, ma la pagato ora, ha pagato, ti canti già vestito. Oh già, io adesso cerco di dormire, anche se sono due mesi in piedi. Comunque ti saluto, vediamo se sei Mario, ti sei ancora Mario. Mario sì sì. Vabbè, io domani devo andare a fare quello che faccio solitamente. Per cui ti saluto, buon riposo anche a te e alle prossime. Ciao Claudio. Già ne vedrò meglio. Ciao Robè, buonanotte, buon QRT e buona giornata per domani. Ce la riassentiamo alle prossime, gappa gappa. Ciao Mario, buonanotte, ciao. Gappa gappa. Ciao già, buonanotte, buon tutto alle prossime.